va bene, ce l'abbiamo fatta, siamo andati in diretta anche oggi, ora possiamo andarcene, ciao, sto bello. Signore e signori, benvenuti, 38esimo episodio della Maledizione di Catta, siamo tornati, è tornato, prima del 2020, primo col nuovo livello. Esatto, saliti di livello, ma non vuol dire che saliamo di livello una volta all'anno. Quasi. Non significa che lo useremo questo livello. Attenzione. Che senso? Sali un po'. Allora, comunque siamo sempre noi, Tycoons & Dragons. Ci potete seguire sui canali social di Tycoons & Dragons e RGDR. Stiamo proseguendo con il podcast piano piano, passo passo, ma siamo in pari con quindi non giudicarci. È bello perché nella consecuzione praticamente su quella di Catta siamo tipo 2 anni fa e invece su quella di Giulio ovviamente si parla magari di cose avvenute che... Ma questo non è importante. Vero. Perché non per forza il pubblico di Umbra Imperi è lo stesso di la diramazione di Catta. Quindi non per forza. Anzi, gli diamo in pasto una cosa nuova. Così. Comunque, soliti siamo noi: Andrea Giacomo Vecchi, Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Maestro Enrico Cattabriga, che vediamo anche con una bellissima sciarpa. Stiamo tutti da Bologna. No. Da altri luoghi sparsi per il globo terracqueo abbiamo invece Marco Bosi e Edoardo Saladini, che in questo momento sentirete male, malissimo, stramale, forse sentirete dei sibili, dei fischi. Pare serpentesimo. Va detto che di solito non parlano, quindi non è un grande problema. Può essere che a un certo punto però magicamente li sentirete. È tutto un nuovo personaggio. Tanto, esatto, Cassalla, cosa ti interessa sentire? Tanto non ci caghi di base, vabbè. Comunque, 38esimo episodio, sempre Dungeons & Dragons versione 5.0. Adesso vado a pescarmi quella che è la sigla che mi ha mandato Catta. No, in realtà no. E niente, il riassunto come sempre lo fa Marco. No, non è vero, non posso farlo fare a loro perché si sente male, va bene. Vabbè, potete mandare un vocale, lo facciamo sentire. Io mi ricordo alcune cose, ma non tutto, per cui... Mi ricordo bene la parte finale. Vabbè, il concilio bene, potresti... Bene, la fai tu. Ah, sì, no, me lo ricordo. Il concilio potresti riassumerlo, tu sei leader. Me lo ricordo. Allora. È questo, no? Sì. Va bene, no? Sì, perfetto. Nello scorso episodio della Maledizione di Catta è stato indetto il grande concilio di Kresk liberata, redenta, ricostruita, mestrua, cosa? Non promette bene per niente. Comunque, nel concilio è stato stabilito che il potere sarà diviso sostanzialmente tra 3 personaggi che rappresentano le 3 entità della città ora costituita. Da una parte c'è Martinkov, capo della famiglia Martinkov, che è forse quello che avrà un po' il ruolo più importante nella gestione della città. A loro è stata data l'abbazia, nei cui campi potranno costruire, diciamo, trapiantare la vigna e cercare di fare il vino, il buon vino, che non è più così fondamentale in questa ambientazione, ma questo che è un altro in realtà discorso. No, non servito, come voleva dimostrare, non è servito assolutamente un cazzo, però tant'è. E la torre dell'abbazia invece sarà destinata a noi una volta ricostruita, sarà nei nostri alloggi e verrà utilizzata anche come sala per riunioni, ma questo è puro, diciamo così, colore. E c'è anche la palestra e la sala. Adesso va, sì, esatto, con un'arena da 10.000 posti. Jack, quello di rosso. Poi, oltre a loro, c'è il capo degli elfi, che si chiama... Single. Gli elfi per ora sono stati, gli è stata data la parte vicino al lago e lì possono creare il proprio insediamento. Compito degli elfi in realtà sarebbe creare una guardia cittadina che insieme a quello che rimane dei mongrel e qualche popolano controlli appunto la città. E poi ovviamente c'è il grande Pietro, Pietro XIII, che è un po' quello che rappresenta tutti i trapper della zona. No, che da garzone rappresentante, esatto, che era fulminante, rappresenta il popolo di Creta. Gianni, anche perché tutti quelli che stavano sopra lui sono stati uccisi. Il padre Gianni è anche di questo. Gianni Anna. E salutiamo. E salutiamo. Dopo aver fatto ciò, abbiamo stabilito però che una delle cose più importanti era ritrovare Rictavio. Però non l'abbiamo fatto. Come voleva si dimostrare. Perché abbiamo avuto visione del fatto che la torre dove si trovava Irina fosse sotto assedio. Abbiamo avuto una visione. Lui ha sviluppato il sangue della sua operazione. Si fa sempre il sangue. Dell'angelo esatto. Bambino che andava verso. E ha avuto una visione della torre, quindi ha pensato. Beh, non sotto assedio, ma insomma fosse in pericolo. Per questo siamo andati alla torre. E dalla torre abbiamo scoperto che c'erano i lupi. C'era anche un drago. Sorpresa. Che hanno fatto scattare la trappola. Surprise! Abbiamo sconfitto il drago. Non abbiamo avuto il tesoro del drago. Quindi falsità. Non c'era nessun drago. Da parte del master, come sempre. Dopo aver protestato vivamente contro l'arbitro. Un contentino. Abbiamo. Sindacato dei draghi. Siamo entrati dentro. E abbiamo scoperto che Rina non c'è più. Quindi dopo essere entrati nell'abbazia e vedere che era vuota, siamo andati alla torre, siamo entrati e abbiamo visto che era vuota. Prossimo posto vuoto? Cosa scegliamo? Come questione che la foresta non sarà vuota. Dici? La torre non era vuota. C'era una testa di una vistana. Un baule. Noi l'abbiamo bruciata perché... No, c'era una testa di vistana però... Basta, no, non c'era... No, un'armatura, ma quello che era contava, esatto, che poteva esserci utile. Sì, c'è un'armatura completa. Sì. Che avete lasciato lì per qualche motivo. Perché a me sarebbe una mezza armatura. Posso prendere solo mezza così non ha mezza. Non puoi. La testa abbiamo stabilito. È perché io ho un più 2 di destrezza. Comunque. Tramite un incantesimo di sfortuna, forse? Cosa abbiamo fatto? Scusa? Possiamo ottenere delle informazioni da quella testa, forse. Forse, ma non dentro la torre. Perché? Perché c'è un campo antimagia. Tu vuoi parlare con i morti, Marco? Da qua. Ci vorrebbe un chierico. Non so, sì, so che. Ma loro non rispondono. quello lo so fare anch'io. E sei un mago. Esatto. Necromante. Va bene. Detto ciò, dovevamo decidere da farsi. Beh, adesso farà una prova di rimettervi dalle. Ma tutto bene, Beth? Ci sentite? Non ci sentirete. Infatti non ci sentiamo. No, infatti. Perché non ci sento? Quando esco da lì non. Non c'è un motivo specifico. Oggi gira così. Aspetta. Adesso non stiamo parlando come normale. C'è muto. Sentite ora? Ci sentite? Noi sì. Posto così, perfetto. Se parlate io. Vicino al coso leggiamo i labiali. Su Facebook si possono dire quelle cose, ragazzi. Beh, so. Dai, tolgo. Beh, si può fare anche così. Ancora. Ora ci sentiranno di nuovo. È tolto, quindi è perso la chiamata, Giulio, bravo. No, basta che fai partecipa, tanto loro due sono ancora attivi, fai partecipa e rientri con loro. Magari devo partire così. Sono più pronto. Ci sentite? Sì, pronto. Visto? Visto, ci sentite veramente? Sentite? Sì. Bene, perfetto. Non era difficile. Abbiamo capito qual è la procedura. Bastava farlo 100 volte. Ok. Va bene, posso, come sempre. Detto ciò, appunto la sessione era finita. Che eravamo dentro la torre e dovevamo decidere il da farsi. Tua mamma ti ha mandato la buonanotte, se puoi rispondere. Ah, scusa, grazie. Buonanotte. Quanti cazzi tu hai? Stavo guardando il video e è apparso il messaggio che volevo, però. Non è importante. Anche nella chat di famiglia, se vuoi. Sì, scusa. Fa buonanotte anche alla family. Ma no, non mi ricordo che ero uscito e avevo iniziato a sparare i lupi, però. Ah, no, è vero, aspetta, qualcuno siamo era uscito. Siamo saliti di livello, intanto. Sì, è vero. No, non è vero. Siamo usciti e abbiamo combattuto. No, e poi siamo saliti di livello, giusto? No, lui era uscito di corsa con Marco, questa cosa me la sono uscito a sparare ai lupi. Però i lupi hanno avuto paura dopo che hanno preso due. E sono scappati via, ma avevi detto che li volevi rincorrere, qualcosa del genere. Ho detto che arrivavo all'inizio del ponte, cercavo di. Ah, ok. Però non c'hanno. Sì, era, insomma, sono lupi intelligenti, non ci sono cascati. Cioè, più o meno la dinamica è questa. Ok, ragazzi, cosa facciamo? Intanto Giulio è corso fuori. No, non si sente, non si sente niente. Non è la prima volta che questo. No, infatti. Ci sono tanto di nuovo in questo personaggio. Comunque, no, adesso scherzi a parte, siamo tutti. Beh, sì, è la metà dicembre. Comunque, dovevamo decidere da farsi. No, fine dicembre. Abbiamo perso Irina. Non siete tutti. Mancarci. Mancarci, esatto, che è rimasto in città. Vabbè, Arci è rimasto in città a dare una mano. Ma è rimasto in città. È accompagnato a metà strada. Sì, poi è tornato indietro. E gli abbiamo detto di tornare a una certa. Di tornare alla torre? No, non lo so. Mi sembra che l'avevano lasciato in città. Ci penseremo più tardi. Quando arriverà Ancio. No, dobbiamo decidere da farsi. Abbiamo una testa di Vistana che potrebbe avere delle informazioni, ma conosciamo qualcuno che possa darci una mano in questo? La risposta è da strada. Quindi, quindi Marco, tu non lo potevi fare, giusto? Non posso parlare con i morti. Casimir è con noi. Cos'è che puoi fare allora? Tu, Casimir. Se mi trovate un libro in cui c'è la magia a parlare con i morti, sì, la posso. Dove troviamo un libro dove ci dice, ragazzi, Irina è andata qua, questo figlio in strada, fate questo. Casimir, tu hai ormai idea. Ormai ce lo dice il libro dopo, quindi. Casimir. Tu hai idea di cosa possa voler dire intanto questa testa di Vistano lasciata qui? Poteva anche essere già lì prima. Comunque la cosa poteva essere già lì prima. La cosa probabile è che l'abbia presa. Però non ci sono segni di lotta di nessun tipo. Questo era un dettaglio, secondo me, non trascurabile. Cioè, lei non ha posto resistenza. È una testa, però. Ma la testa, la testa non ha posto resistenza. Il corpo cosa fa? Cioè, magari è tipo distrutto il corpo. No, io dico Irina. No, intendevo Irina. Non abbiamo nessun bardo. Anche un bardo sapeva parlare con i morti. Ma Irina è semplicemente andata coi lupi. Balla coi lupi. Balla coi lupi, esatto. Tanto sappiamo che i lupi sono amici di Irina. Sì, sì, perché lei poi c'aveva ogni tanto queste. Vabbè, Irina è persa. Amen. Ma che cazzo di Irina? Cosa? Ma c'hai rotto i coglioni per 6 mesi per Irina? Ma cosa hai persa? Amen. Cioè, finché potevamo far qualcosa. No. Il discorso è questo. No, oddio. No, Atanas è brutto e cattivo. Che è con Strad perché vuole consegnare Irina a Strad. Allora, io. Questi cazzi, Irina è persa. Tutto quello che era possibile per me per salvare Irina. Cioè, lei non si è salvata, cioè, nonostante, e non posso farci nulla. Adesso il mio non obiettivo. Si è salvata perché tu l'hai abbandonata. E magari l'hanno rapita e dobbiamo andare a salvarla. Ma cioè, c'è la possibilità, cioè, sì, ti rendi no? conto dello scambio di ruoli che sta succedendo? Cioè, questa cosa è bellissima. Beh, nel senso, capisco il tuo per sbagliare i nomi dei personaggi, è chiarissimo. Allora, cioè, se c'è una pista che ci conduce a Irina, volentieri. E cerchiamola prima di dire amen. Sì, ma non c'è. Ma non la vedo. Ma. No, vabbè. Abbiamo. Cioè, il mio personaggio è d'accordo. Allora, però a questo punto si chiede perché siamo arrivati a questo punto. La torre era una roba antimagia. Cosa dici, Salla? L'avete già fatta una bella investigazione su. Sì. Sì, ho fatto tipo 3. Bella investigazione? No. È fatto lì. Falla tu. Ma possiamo farla tipo di gruppo? Beh, no, parla lui. La fa uno, dice. Ho guardato e non ho trovato niente, per quale motivo un altro dovrebbe. Perché non c'ero. Beh, una risposta plausibile. Beh, se il barbaro mi dice non ho guardato niente, io non lo ascolto, onestamente. No, in realtà adesso non abbiamo di fatto un obiettivo, però. Che non abbiamo. Come no? Dobbiamo cercare la verità. Dobbiamo andare anche da. Dal drago argenteo paladino e dirgli no, tacca, è vero, in realtà il nostro primo interesse potrebbe essere quello, perché tutto sommato io ho ragione così, Rittavio se la cava da solo, no. Cioè, in verità dobbiamo andare, sì. Cioè, abbiamo stabilito che era fondamentale recuperare, sì, Rittavio, poi abbiamo fatto prima questa cosa per cercare di salvare Irina, siccome Irina evidentemente invece non ha capito, morta una gnagna se ne fa un'altra, non si è voluta salvare, vediamo almeno se riusciamo a recuperare Rittavio, perché magari Smeralda, se recuperiamo Rittavio con la ticcia, quello che vuoi, magari abbiamo la possibilità di sconfiggere Strada e salvare Irina. Cioè, Irina in questo momento non sappiamo dov'è. Se qualcuno di voi sa parlare con Stavistana, magari posso provare a sniffare dell'altro sangue, ma però capito bene, sì, abbiamo una roba come sempre, abbiamo qualcosa di inutile, è inutile della Vistana, non credo funzioni con il sangue mio, funziona col sangue mio per un motivo. Okay. No, chiedo a Casimir se secondo lui ha un senso questa testa. Cioè, magari l'ha già visto altre volte in questa regione usare di lasciare una testa che ha un motivo. Sì, è un biglietto di visita. Ma è con noi, Casimir? Sì. È un classico regalo che si fa ai bambini. È qua da molto tempo, quindi probabilmente è stata portata qui dopo che è stata... Cioè, non è stata recisa in questo luogo e probabilmente ha viaggiato. Certo. Casimir dice, è una testa. Grazie Casimir. Visto che stavamo elencando le priorità, vi dirò le mie. Di Casimir? Sì. Ha delle priorità? Sì, dall'inizio, che da quando l'avete incontrato me l'ha detto. Non funziona così con i PNG. Beh, sì, vabbè, lui delle dici, siamo potete, tutti orecchi. Potete ignorarlo. Come siamo tutti orecchi, diteci. Ok, io gli ho anche detto, sì, della tomba della sorella. Che non abbiamo però divelto come avrei voluto. A proposito, appunto. No, io volevo farlo. Perché non l'abbiamo fatto? Perché ce ne siamo andati senza aprire quella tomba? Non mi ricordo. Perché c'è stato il concilio e siamo stati presi dal concilio. Mi devo segnare le cose per scordarmi. Casimir vi dice per la sopravvivenza sia nostra che anche del nuovo villaggio liberato, le conoscenze di Van Richten sono fondamentali, perché mi dà fastidio che dia corda al paladino. Sì, è vero, è fastidioso. Cioè, in automatico mi viene da dargli contro. Questo è il suo punto di vista. Poi fate quello che volete. Ma se coincide col suo per un motivo molto semplice, questa foresta è infestata di mannari al servizio del maligno, e se per qualsiasi motivo dovesse divampare un'epidemia di licantropia nella città, non avremo nessuno in grado, certo, di fermarla. E detto questo, io onestamente ho un solo legame di cui mi importa, ed è quello con mia sorella. È morto. Non lo dico, credo. Spoiler. Spoiler, l'ha uccisa lui. Esatto. Sa, però. Magari ogni tanto se lo scorda lo rimuove. Giochicchio con un sasso. Non magari lo rimuove perché periodicamente lei gli appare in sonno. In sogno. Okay. Giochicchio con una pietra, mi tornava a memoria. Quanti punti per Italia? Adesso 104, no, per ora 103, perché questo ho provato da sceo. No, è vero, quello altro conto. Buon Natale. Il tuo amico Casimir ci sta dicendo le sue priorità. E la prima è effettivamente recuperare Rittavio, perché ha delle conoscenze. Quindi adesso che ha detto Rittavio va bene, ma l'ho detto io, vaffanculo. Veramente il segreto di Krez. Veramente. In realtà adesso va meno bene di prima. Esatto, ci dà fastidio Rittavio perché dà ragione a te. Quanta vita hai, Vez? Di base o in assoluto? In assoluto. Ah, altri 5 anni. 6. Ok. Di base. Altri 5 anni e poi andate. Quanta vita hai, scusa? No, abbiamo... In assoluto gli dice 76, se fossi al fin dei conti per però me. Però forse ho ancora 54. Il male, mi sa, il malus è quello negativo. Io ho 66. Io ho il cine a poker. Tiro sempre basso. Beh, prendi la media. Vabbè. Sì, prendo la media da un bel po' che prendo la media. da un bel po' che tiro la media. Sono confuso. Ah, non so, cioè, che qualità. Adesso un attimo che riprendo. mio fine ultimo è quello di riuscire a riportare in vita mia sorella. Riportare in vita? Indietro. Cioè, si possono riportare in vita le persone? Perché tanto gli spiriti non fuggono da. Io ho un vecchio amico. Da Barodi. Vorrebbe. Allora potremmo. Che al massimo dovrebbe dire no. Trovare una. Sì, è vero. Pensa, io ho un vecchio amico qua. È vero, cazzo. Pensa, il tuo personaggio ha un vecchio amico. Il cui animo è intrappolato, cioè, in questa terra. Saresti anche un mio vecchio amico, però per il mio punto di vista è. Che fortunato. Anche perché ti ricordo che per tornare in vita l'anima deve essere consenziente, cioè deve essere. Ma c'è anche il cosa vuol dire consenziente? Cioè, quindi la sorella si farebbe chissà resuscitare dal fratello che l'ha uccisa a pietrate. Perché dopo anni che gli appare in sonno hanno fatto pace. Cazzo, va bene, dai. Cioè, la sorella è stata uccisa a pietrate e ha perdonato il fratello. È il classico litigio fra fratelli. Esatto. Oh, scusa, vabbè, dai, ma non dirlo a mamma. No, ho capito. Dai. Ma avesse uccisa, cioè, in modo pulito, semplice, vabbè. Dice, vabbè, mi hai ucciso, è uno stronzo, vabbè, però. Ti sei pentito. Cioè, l'ha uccisa a pietrate. Quando cioè, ti vengo in 5 minuti. La lapida. Ci vogliono più di 5 minuti a questo punto. Non è che gli sono 5 minuti. Ti vengono i 10 minuti, dai, su. Vabbè, allora, come Braulio. Questo è uno sloveno che è anche molto peso. Questo ha un po' di assenzio ed è più peso. A me fa cagare. Però anche il tipo di. Esatto. Anche il tipo di. Come si chiama? Cranky. Non so voi quante ne volete. Questo invece. Brawly è buono. Comunque, prima che mi interrompessi, ti dicevo che. Sì, vantava. C'è un attimo anche il tipo, scusa Katta, per finirvi, si vantava l'amico lì, il tipo di, della festa di Ema, di averlo, e in realtà non so bene di cosa, perché si però ha una nota di asse. Si è andato carico, Giulio? Sì, quanti gradi sono, scusa? 28. 28. Okay, è la metà di quello che hai messo a te. Guarda, sembra che siano di plastica, sono di vetro. Sono di vetro. Sì, wow. Sì, no, però sì. Dai, ma al massimo non prenderò il secondo bicchiere. Facciamo un brindisi a aspettiamo all'ottavo. No. Oh, comunque comunque la sera tornati a casa alle 6:30 del mattino. Emma che non ha le chiavi di casa. Se tornati alle 6:30 non aveva le chiavi. Questa è stata la perla che non ho perso. Io mi perdo sempre comunque ormai le perle di fine serata. Tu invece te le fai tutte. Sono tornato. Sì, sono andato alle 7:15. Minchia. Ora che sono tornato al botteghino. Impegnativo. Boh, non mi dispiace, sai. No, no, sì. Bene. Ne bevete uno dopo. No, bene, sì, ma non fa cagare. Quindi mi fa piacere che mi piace. Ma perché te l'ha regalato? No, l'ho preso io il sorvegno. Ah, okay, ma non l'hai assaggiato? No, l'avevo assaggiato, ma mi faceva cagare. E per? L'ha preso con no, per ah, no, l'ho comprato lì al supermercato per portarmi un alcolico dietro. No, lì non l'avevo bevuto. Non l'avevi ancora assaggiato? No, pensavo l'avessi. Io in realtà volevo prendere un'altra cosa, però non la trovavamo, alla fine ho preso quello. Ah, ok, no, è vero. Va bene, basta, non interrompiamo più il povero Casimir. Scusa, siamo povero Casimir e dice che lui comunque. Casimir vuoi un po'. La sua priorità, comunque, oltre a trovare ritardo, quindi sì, è riportare in vita. Di mettere sull'acqua, così poi appena arriva butti la pasta. No, basta, ci non. Veramente? Metti sull'acqua, veramente. Hai detto un sugo leggero. Schiavo. No, non mi va. Scrivilo, c'hai il coraggio. Oh, cazzo, schifo. No, è vero, non mi va. Buono. Vabbè, arriva, lo fa lui. Casimir vi dice, probabilmente ve l'aveva già detto, quindi vi ripete che anni di appunto divisioni di insomma, chiacchierate con l'anima di sua sorella gli hanno mostrato come lei non abbia più in mente intenzioni malvagie, perché non era Strad che voleva la sorella, era la sorella che voleva Strad. Vabbè, allora lasciamo morire, cioè nel senso, ma si voleva sposare, cazzo, riportiamola in vita, gli diamo lei, siamo a posto. No, non hai capito, era il contrario, era la sorella che voleva Strad. Cominciamo a mostrare che questa è una gran gnocca, gli diamo lei, lui è contento. No, ma non si dovevano sposare. Strad non gli va mai bene un cazzo. Non avevo capito. Lei lo voleva sposare. Sì. Ma non era reciproca che si doveva sposare. Ma ci ha detto lui adesso però questa cosa. A Strada non dispiace. Non mi ricordo, secondo me l'aveva già detto. Vabbè, comunque ve lo ribadisce. Si dovevano sposare, sì, ma questo da qui a dire che Strada era pazzamente innamorato. Vabbè, ma chi se ne frega, cioè, si sa che i ricchi non si sposavano per amore, cioè. Lui sì. un romantico. Certo, ha tre mogli, tutte e tre per amore. Quelle no. Una è morta però, spiace. Oh. Ah sì. Quindi lui ha sentito che la sua anima si è pentita e quindi la vuole riportare in vita. Come pensi di I segreti di questo potere risiedono nel tempio di Ambra. Cioè, in confronto da Rodrigo era un santo. Tutti i nomi che potevi... L'Amber Temple, come lo trovi? Non ci voglio... radiamo il solo questo posto. Ciao, Ambra. In realtà ha un altro nome nella campagna, ma Catta l'ha cambiato apposta. No, giuro che si chiama il The Amber Temple. Oh, il tempio di Ambra non riporti vita al mio personaggio, però. Ha detto, nel tempio di Ambra... è nascosto tra le impervie montagne a sud. Che sentendo, sono. Dobbiamo andare in via Massarenti. Sono. Sono celate. No, schiavo. Si piega. No. Come si piega? Oscure conoscenze, arcani poteri. Ma io da solo non sono in grado di arrivare in sicurezza fino là e ritornare vivo indietro, perché sì, quindi tu sai esattamente dov'è, però io ci sono stato. Chi ti ha portato? Ci sono riuscito ad arrivare da Strada solo. Era il mio migliore amico. Sono riuscito ad arrivarci da solo, ma il viaggio mi ha quasi costato la vita, e quindi una volta che eri lì già che eri lì sono arrivato all'inizio, non sono riuscito ad addentrarmi perché era troppo pericoloso. Pericoloso in che senso? Definizione di pericoloso. Sia le entità che lo abitano sono estremamente antiche e potenti. E dicasi pericoloso. Stiamo parlando del tempio. Sì. Cioè, il tempio di Ambra. Il tempio di Ambra. Ah, adesso ne parla. Siamo saliti di livello. Come esatto. Di ora abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato. Di merda. Sì, bastava il vino, poi fare come non penso poteva. Potevamo essere a questo punto tipo 4 mesi fa. Sì, ma se ci foste andate 4 mesi fa non avreste fatto ritorno. Adesso avete più possibilità. No, potremmo essere stati allo stesso punto 4 mesi fa. Ah, Dio, ok, sì. E perché le difese e le trappole del tempio sono oltre che mortali. Hai detto trappole? Ma noi abbiamo detto un trappole. Ladro abilissimo. Ma non sono un ladro, non ci sono prove. Questo tempio abbiamo un uomo immacciato. Questo tempio è un tempio. Ci sono delle entità antiche potenti. No, che lo custodiscono. Fisico. Con la reliquia. Sì, che ci sono delle. Non sono proprio delle cose all'interno che si muovono. In realtà tu adesso giri tipo sono pappone pericolose. Con tutte le robe no, che hai graffignato sì, qua e là. Quindi persone fisiche non ci sono. No, però qualcosina. Ho cercato se c'è qualcosa di prezioso in questa torre. Non l'ho vista, ma ho visto dei segni di un passaggio di qualcuno. Ma principalmente quello che lo abita è tutto meno che umano, diciamo. Meno o e la strada per arrivarci è molto lunga. E consiste nel attraversare in direzione sud le montagne fino al Monte Gakis. E attraversare il passo di Zolenka Facebook ha cambiato fino al che passa attraverso il fiume Luna che dà sul lago Luna. E da lì ci si arrampica cercando di evitare le tribù barbariche. Si arrampica? Sì, è una strada molto... c'è un sentiero che va di su, ma è molto impervio. E più o meno... Una strada tortuosa. La strada? La strada. Una classe. Più di una giornata ci vuole tutta. Partendo, dipende da dove partiamo. Ma vabbè. È custodita da un ragno gigante. Allora. E lo stesso monte su cui sta il tempio. Monte? Ecco. È abitato da delle creature antiche e pericolose. E i racconti narrano di spiriti di animali che prendono forma di animali che incarnano le forze stesse della natura. Cioè, della terra. Kevin Merda è stato al tempio. Mm-hmm. E non è già stato un periodo che cercavamo informazioni sul tempio. Lui ha detto che il tempio sapeva tutto, solo che non era il momento. Che non eravamo pronti. L'ho spiegato, c'era nel dialogo una persona di merda. Lo attacco. È vero, cioè, poi è apparso l'opzione grigiata, devi essere di livello per cercare qui sotto. Esattamente così. Secondo me perché ha visto che abbiamo battuto il drago e quindi ha detto siete veramente forti. Un collegamento con questo tempo. Siete veramente di livello siete veramente forti. Che era un livello fa, cioè. Ok. Anche prima boh, chi lo sa. Prima però direi che ovviamente potresti provare. Regalargli un po' di esperienza, toglietevi il livello. Toglielo da Lasi. Sì, sono più antiche del tempo stesso. E quindi. E sono sicuramente legate. Cioè, dicono. È a qualcuna di queste entità con cui Strahd ha fatto il patto. È dopo questa campagna che Cthulhu è arrivato nel mondo reale, nell'isoletta, che poi si gioca. È quello che... è Yogg-Sothoth. Ma quindi tu sai per certo che recarci al tempio eliminerà, o comunque ci darà possibilità di eliminare le maledizioni di Strahd. Questo, cioè, tu come fai? Eliminare la maledizione non lo so, però ci sono, so che ci sono delle conoscenze potentissime che possono essere usate per combattere. Ma sono sopra 9000. Sì. Aspetta che... Oh, qualcuno dice che abbiamo messo sulla... Ha scritto? Ah no, sto sulla faccia... Sì, sì, faccia seria, perché è molto, molto deluso. Bene. Detto questo, però, prima di riuscire ad incamminarci in sicurezza, abbiamo due ostacoli. Oltre a, vabbè, quello del maligno, ma quello è sempre presente. Prima di tutto dobbiamo trovare Rictario, direi, allora. Sì, ma vi dicevo, appunto, questo è il mio consiglio spazionato. Onestamente, a me importa solo di mia sorella. Ah, che egoismo, però. Questo non mi aspettavo da parte di tu hai qualche amico per caso da resuscitare? Così dalla sorella. Dai, importa solo della sorella, disse il tizio che ha ammazzato la sorella. È un po' tardi perché ti importa della sorella, non credi? Ma la domanda è: vabbè, è come uno che dice Irina, vabbè, me ne è andata. Sono sei mesi che volevo perso un pezzo. Com'è che recuperiamo la sorella? Infatti, vanno d'accordo. Lui la vuole resuscitare. Al tempo. Ciao, no, con lo stesso Forma Mentis. Ciao, ciao. Cazzo, come stai? Non lo so, roba. Chewing gum gigante. Sono caramelli che sto prendendo da stamattina ininterrottamente. Mi sta passando. Scusami. Ah, tutto questo è per poter far battute, per poter interrompere il master. Bravo, sembra una giusta definizione. Per un momento ho avuto paura, forse non so, un integratore. Che anche io pensavo barrette energetiche. Ora sto prendendo stamattina ininterrottamente. Sto conducendo uno studio con solo 7 kg di caramelle. Passa. Vuoi l'acqua allora? La vodka cifra. Dai, ti ha fatto il faccino dolce, sì. Però. Ho dovuto esprimere un po' di voce col paziente. Se parlo a questo tono di voce posso. Come? Non ti sento? Non sento. Madonna, cominciamo a volare gli schiaffi. Devono proprio volare. Loro vola via l'iPad di mezzo. Diretto. Io sono troppo vicino per cui smetterò di darmi fastidio. Non te demo. Vabbè, ti faccio un veloce riassunto. No, chi se ne frega. Siamo arrivati a livello 8, quindi... No, sì. No, tu no. Siamo a livello 8. Ah, è vero. Tu... Non hai combattuto il drago, non c'eri. No, più che altro deve arrivarci vivo. Allora, ti spiego cosa è successo. Cioè, quando quello che non gli arrivo, devi arrivare. Sono io. Devi arrivare. Il consiglio c'eri. Mi sono perso anche la penultima. Cioè l'ultima. Allora, hanno fatto il concilio di guerra in cui lui ha spartito i poteri all'interno della città. Della città, della città, della città. Scusami, il concilio della città, volevo dire. E poi dopo ci siamo recati alla torre perché lui ha avuto una visione per cui forse quell'angelo demone andava alla torre. Siamo andati là, per metà strada tu ci hai accompagnato per aiutarci con gli animali, poi tu sei tornato indietro ad aiutare a sistemare la città e noi siamo arrivati alla torre. Alla torre c'erano dei lupi che quando hanno visto che siamo arrivati hanno attivato una trappola che c'era nella porta e abbiamo combattuto un drago. Drago. Sconfitto. Drago. All'interno della torre Irina non c'è più. Drago. Ma c'è in un baule la testa, ormai vecchia, di tanto tempo, di una vistana. Ok. E siamo saliti di livello e di conseguenza a questo si è sbloccato Casimir. Partita la cinematica. Sapete quelle cose che mi avete chiesto? Io ho detto no, non so un cazzo. Ma che ho fatto con Marco? Cosa c'entra? Solo quella sono due livelli, vorrei dire questo. Ah, insomma, no, avete portato in pratica niente. Ci sta. No, è un discorso non temporaneo di successione degli eventi, sì. Nel senso che mentre noi arrivavamo alla torre, tu probabilmente affrontavi altro. Esatto. Ah, tiro 3 di 6. Sarà la tubi. Prof, non ho la voce. Tiro 3 di 6. No, vabbè, prof, tra un'ora devo andare con una visita medica. Ti interrogo allora. Ah, vabbè, tra un'ora andavi. In un'ora ti interrogavo. Allora. Però non hai mai dovuto spiegare a tua sorella cosa pensasse Popper. Segnati che per accompagnare loro hai usato due evoca in... Salute! Posso parlare? No, bello. Madonna, beh, che cazzo sono queste caramelle? Volete sentire anche voi? Direi. Se arriva la polizia. Beh, vecchio, no, non puzza questa. Mi sta morendo. Con le caramelline profuma. Hai ragione. Adesso puoi accendere l'aria. Senza zucchero, senza zucchero. Ci sono solo che degli edulcoranti, è il minimo che posso scorreggiare. Parte l'antincendio che abbassa. Non so, fai qualcosa. Segnati che hai lanciato due evoca e una cura di primo livello. No. La cura lui non l'avrebbe mai fatto l'ora di fatto. Cioè, ora mi devo fightare con gli esempi. No, ma quella. Faccio il 9. Spero. No, è l'altro. No. Aspetta. Ah, proprio li devo già recare tutti, ovviamente. Sì. Sì, proprio dopo la missione diplomatica. Sì, però c'è questa. Ce l'ho questa. Vuoi vedere quella? Un'evoca e una cura. Due evoca. Quindi ci facciamo due evoca. Facciamo di brutto. Perché due evoca? Perché uno per portarci là. No, ne avevate usate due. Non mi ricordo, però ho segnati due. Sì, comunque non è che appena io manco loro sputtano incantesimi a cazzo. Scusa, abbiamo combattuto? No. Per caso no. C'è stato il concilio, poi siamo venuti. No, solo uno in effetti. Cosa? Solo uno evoca ha fatto lui per portarci fino a metà strada e poi. No, perché dura un'ora, quindi forse l'hai fatto a metà? Ah, ne hai fatto uno e siamo arrivati a metà strada. Sì, io non ero d'accordo su questa cosa, però è stato deciso. Ma hai rifatto l'altro, cambia. Così noi abbiamo continuato. Tu intanto sei tornato indietro, è vero. E quindi. Esatto, è vero. Trotterellando per le foreste ridenti di Barovia, a un certo punto senti ululare. Non siamo passati per la foresta. Certo che siete passati per il sentiero che passa. Però, però probabilmente sei in forma animale. Ma non so, chiedi a loro. Esatto, in che forma è? Ma dove sono? Non perché so. Sono le foreste? Tu hai fatto... Io mi sono non allontanato. Non sì. Comunque sul sentiero. Loro sono arrivati qui alla torre per accompagnarli, per farli andare più velocemente e quindi correre meno rischi. Hai chiamato delle bestie da cavalcare. Perché ridi, beh. Siete arrivati a metà. Non so perché ride, io rido perché rido. Perché solo vorrei combattere da solo. Siete arrivati a metà. Il primo evoca è finito. Tu gli hai fatto il secondo per farli arrivare in fondo. E ti hanno detto ok, ciao, grazie, torna ancora indietro. Ma ora non manco più gli esatto, è questo il concetto. E quindi tu te, te ne stavi tornando a casina tranquillo tranquillo quando dai cazzo, dai anche a cazzo. Dalla nebbia cominci a vedere delle quadrupedi correnti nella tua direzione. Quanto manca l'arrivo? Mancano, tu sei arrivato qua in teoria un'oretta. Perfetto, metamorfosi, aquila, vola via. Guarda come mi brucia, adesso si deve alzare in piedi, non riesci più a sedersi. Tutti in piedi per questo spiace. Puoi farlo? È livello 8. Sì, trasmutazione no. Tu non è, c'è rischio che non puoi farlo. Io non posso fare quello che volano se faccio la forma animale. Ma questo è un incantesimo di, di quarto livello. Io uso metamorfosi. Cos'è? Polimorfismo. Sì. Ma ora sei livello 8, puoi farlo lo stesso. No, perché qua sono nella fase prima. Prima che voi incontraste il drago. Io sto volando per andare ancora a fare all'8. Quindi avrai l'attimo in cui livelliamo tutti assieme. Ci sarà il momento in cui finisce la metamorfosi, comincio a precipitare come nano, faccio l'8. Scusa, fammi controllare per una cosa. Vabbè, a sto punto non sarei più di livello. Ah no, allora torno indietro come gorilla gigante. Poi devo fightarli per salire, no, li ammazzo, no, tutti, li distruggo la foresta. Il mio dubbio è che effettivamente volevo controllarlo già tempo fa. Ma la polimorfo può fare qualsiasi cosa, quella di vita. Tu la puoi fare ad uno. No, il, perché me. Il mio dubbio è quello. Certo. Perché lui ti trasforma in una creatura. Se non la creatura non vuole, deve fare tiro salvezza. Punto è, una volta che tu diventi un animale, puoi tenere la concentrazione su un incantesimo, cosa che lui richiede. Certo. Sì, le caratteristiche mentali dovrebbero rimanerne tue, no? Dovrebbero. Ma la concentrazione comunque va sulla costituzione. Non c'entra niente con le mentali. Sì, no. Ok. Cioè il tiro di costituzione se prendi danni, però richiede che tu sia intelligente. Una persona intelligente. Vedi, intelligente, un essere senziente. Posso perderla, certo, posso perderla. Vedi, dice le statistiche del bersaglio, incluse le statistiche mentali, sono rimpiazzate con le statistiche della bestia scelta. Ah, quindi è davvero intelligente come uno scimpanzé. Sì, esatto. Che è un miglioramento con me. Con polymorph, non con l'incantesimo polymorph. Il mio dubbio è se tu lo fai su te stesso intelligenza e diventi un animale. Allora, cioè, quindi non può tornare nell'altra forma. No, non può mantenere l'incantesimo. Perché non può fare l'incantesimo, ma non ha poi la concentrazione per tenerlo. Quindi. Vediamo. Ma è cercata, cerca. Perché tu lo puoi fare. Perché tu lo devi fare su qualcun altro. Esatto, secondo me è fatto perché tu lo faccia su un altro. No, puoi fare su te stesso. Sì, ma poi non tieni la concentrazione. Se prendi danni rischi di perderlo, certo. Cioè la concentrazione è per tenere le bestie in questo caso. Per tenere se stesso. Cioè ti ricordi quando mi faceva scimpanzé? In realtà potrebbe anche non essere, perché in effetti una creatura che tu puoi vedere. Ma non ha senso. Sì, sì. Beh, tu sei una creatura che puoi vedere. Sì, ma in realtà non ha senso, cioè lui si fa polimorfo e non è in grado di tenerselo addosso. Perché se tu ti polimorfizzi in un pesce e il pesce non sa mantenere la concentrazione su un incantesimo. Non ha senso. C'entra. Tu fai l'incantesimo. Che allora uno lo possa fare. Cioè se è self allora vuol dire no, che non è fare. Self, è range 60 piedi, tu lo fai su un altro. Se non può farlo su sé, ma questo è un altro discorso. Sì, ma questo lo stai mettendo lui, questo è il discorso. Cioè, nel senso, questo è il discorso. Cioè, o lui non lo non può fare su se non c'è stesso. Nessuna cosa che dica che tu per mantenere un incantesimo devi avere un minimo di un valore. Tu, a te serve un minimo per castare. Dopo che lo casti, io divento un gorilla gigante. Se poi mi danno uno schiaffo, perdo l'incantesimo. Forse, se il gorilla se ne accorge. E torno druido. Se no, per un'ora, quello che è, io tiro avanti come gorilla scemo. Deve subire danni, in teoria. La logica è questa, perché finché non subisci danni... L'incantesimo è stato castato. Tu l'incantesimo di concentrazione. Intanto, la concentrazione di luce proprio. Il problema è diverso. Il problema è se la creatura è limitata nelle sue azioni che può performare dalla natura della sua nuova forma. Non può parlare, lanciare incantesimi o prendere altre azioni che, che richiedono le mani. Un casto da gorilla gigante. Vabbè, come non casta da quando è. Esatto. Lo cambia. Sì, il problema è un altro, Katta, se può lanciarlo su se stesso o meno, quello è l'unico problema. La concentrazione, tu se può lanciare su se stesso, non ha senso che lui se lo lanci e poi se lo perda improvvisamente, cioè in che senso tu Katta la concentrazione la tiri solo se prendi danno, se nessuno mi tocca io rimango senza problemi. può essere che non sia un incantesimo che può fare se stesso, quello sì. Sì, ma questo non c'è scritto nessuna parte. Cioè, credo che lo specificherebbe, non puoi farlo a te stesso. Se sì, ci fosse esatto. Questo problema. Sì, infatti secondo me può farlo. Può farlo, però non può tenere la concentrazione, quindi è il primo danno che prende. Che non può tenere la concentrazione. Ma perché? No, costituzione. Esatto. Cioè, se tu mi togli un punto vita per il gorilla non è un cazzo, io continuo a pestare. Sì, esatto. Ma perché non lo fai? Anzi. Cioè, è sempre un tiro difficoltà 10, però sì. Sì. Però con la costituzione dell'animale che ho. Sì, esatto, cioè non vedo il problema onestamente, non mi sembra neanche squilibrato. Cioè giustamente il dubbio non è tanto a livello di regola quanto a logica. Se poi diventi una cosa stupida, tra virgolette, l'essere stupido non può tenere un incantesimo. L'essere stupido non deve lanciarli, ma tu l'hai già esatto, fatto. Esatto. Non va tenuto. Sì, infatti gli do ragione a voi, era per capire quello che stava cercando di capire lui. Cioè non è un incantesimo che dura nei round, capito? Tipo sfera infuocata. Un incantesimo che tu devi tenerlo attivo. Ma infatti il discorso, secondo me il discorso qua è proprio un altro, cioè è capire se lo può lanciare su se stesso, cioè se può autorendersi un ritardato. Sì. Posso farlo. Perché c'è tipo un conto andare su Sceo e dirgli Sceo diventerà ritardato, però sarai fortissimo. E lui dice: io sono già ritardato. Tu immaginati, tu immaginati un nudo che ha uno di vita. E allora non va. Invece di morire, si casta metamorfosi, diventa un gorilla con 200 di vita e si salva la vita. Ecco, non penso che sia stato pensato esattamente per questo, ma è indubbiamente così. Vabbè, che tu lo useresti. Però è chiaro. Nel senso che chiunque usa lo. Se ti trovi nella merda. In teoria, cioè allora, sì, per come ovviamente è un po' strutturato il gioco, a livello teorico no, cioè se ci pensi. È stato pensato per potenziare un altro, certo. Cioè, nel senso. Non è vero, è stato pensato per potenziare un giocatore. Sì. Che sia te. Cioè, noi lo usiamo così perché il potere grosso di quella roba è quello e quindi da buon min-maxer lo facciamo. Ma io sto andando per scappare ad esempio adesso. No, chiaro. No, ma infatti, esatto, delle due è più utilizzato per quelle cose lì. Cioè, in teoria, teoricamente sarebbe pensato per quelle cose lì. Ma infatti non... Cioè, l'unico problema è capire se te lo puoi autolanciare o meno. Ma come si chiama Polymorph? Polymorph si può lanciare tranquillamente su te stesso. Il conto allora, è una cosa di manuale. Allora è una cosa di manuale. Ma infatti non capisco cosa stiamo guardando. No, invece cioè, è un problema che molti si sono posti questo e sto cercando di soluzione. Sì, però... ma carta sti cazzi, decidi è buona. Sì, a parte che uno decide è buona, e poi però non capisco volevo consultare un minimo di opinioni. No, è una cosa la maggior importante. La maggior parte, no, la maggior parte dice che si può. Up to an hour, one action. Poi ovviamente ci sono... Ci sono le cose logiche per cui in teoria non dovresti. Sì, però... certo, è la solita discussione tra regole però. Come sono scritte e regole spell come sono intese. Spell has no effect on a shape changer, però il druido non è uno shape esatto, changer. Però lui può cambiare, non muta forma il druido. Beh, però non ha la... un altro cavillo! Sì. Non ha la, il sottotipo muta forma. E scusa, prima riga, no, questo qua l'ho guardato già nell'altra campagna. Nell'altra campagna non sono esperti. No, nel senso, abbiamo controllato e non c'è, anche su internet dice che lo può fare. Mantiene il suo allenamento. Sì, era quello che volevo controllare, avrei voluto farlo è prima. È come dire, se tu vai su internet, trovi 18 scordato. Che dicono di sì, uno che dice di no, uno dice di no, è chiaro che un deficiente c'è sempre. No. No, è che dire su internet ogni qualsiasi opinione vuoi. No, diciamo che se io avessi fatto il gioco per come è scritto non lo farei castare su se stessi. Però così. Se io fossi il master lo farei comunque fare perché non me ne frega un cazzo. Il senso. No, cioè il senso di un altro, è di darlo a un altro, perché tu hai già forma animale. Sì. Però così rega, no, perché se però tu sei così... druido, se io lo faccio su di te, poi comunque mi devo stare nascosto, camperato. L'idea del druido infatti è quella. No, non è tu che più parole inglesizzate utilizzi. Cioè tu vabbè, sei allora scusa, se io ti faccio esatto. Diventare un druido, potrebbe dire, ma è troppo stupido per attaccare. Sì, è vero. Esatto. Allora non si può farlo. Sì, infatti sì. No, però la personalità la mantiene. Ah, esatto, tiene i tratti di personalità, l'allineamento. Certo, forse no, secondo me in generale l'abbiamo sempre usato bene. Vabbè, io ho 8 di intelligenza anche nella mia forma. No, ma quindi non è che... secondo me l'abbiamo sempre usato bene. Il discorso cioè, è... allora, la domanda è legittima, però l'interpretazione maggioritaria per esempio, è che si può usare. Sì, va bene, ho trovato la risposta. Che tu puoi, non c'è nulla che ti impedisce di concentrarti su un incantesimo che hai lanciato prima di venire trasformato. Vabbè, ma questo secondo me questo era questo il problema. Però era questo il nodo. Per me il problema no, è il punto è che Kat ha trovato la legge, cioè la regola, il comma. Però è uno che ha fatto il gioco. È andato sul sito di Dungeon. Cioè, comunque non si era posto il problema, se no l'avrebbe scritto. Quella regola lì è la regola normale del druido. Cioè, quando lui diventa forma animale, può castare l'incantesimo prima e poi cambiare forma animale. Previsto dal druido. Esatto. Sì, ma questo non è il wild shape, è l'incantesimo, che è diverso. Ma è uguale. Cioè, no, sono diversi. Sono diversi. Ma ti faccio una domanda io. Secondo me ha senso, non dovrebbe lanciarsi su se stessa. E ha ragione Giulio. Però è diverso perché in polimorfo tu hai anche le caratteristiche mentali però chi se dell'animale. Dal punto di vista della regola è quella, se lui può castare incantesimo e poi mantenere l'incantesimo. Ma sì, perché io lo casto da druido, è questo il discorso. Per cui non c'è motivo per cui non lo possa rispettare anche in polimorfo. Però ti faccio una domanda io, se subisce danni fa un tiro sulla concentrazione? Sì. Da druido in forma animale arriva un punto in cui può castare anche in forma animale, mentre in polymorph non potrà mai castare da polymorph. Ma infatti è una regola. Sì, esatto. Cioè nella forma animale lo specifica. Sì. E come il polymorph specifica che non potrai mai castare. Sì. Va bene. Divento acqua e sparo palle di fuoco. Cioè poche parole caga. Però poi cagato, te l'avrei fatto qui. Ma adesso che... me lo fai lottare. No, però se mi dici che devo fightare non divento. No, non devi fightare. No, se per fare lotto. Sali comunque, abbiamo combattuto noi contro il drago. Ah, vabbè. Questa è una cosa. Salito all'ottavo persino Sallo. Mi volevo guardare, ma mi sono dimenticato. A parte che io contro il drago ho combattuto e l'ho anche ucciso io. È vero. Vi faccio un'altra domanda. Se io da druido ho un talento per la quale io ho la proficiency ai tiri di costituzione. Comunque è più bello quando ci chiama l'ex arcane. La proficiency vale anche da animale. È che il problema di base è che siete tutti troppo rigidi sulle cose. Cioè Katta potrebbe benissimo dire fanculo, non lo puoi fare, basta. Ma no, sì, allora ci tenevo a controllare che cosa avevano pensato quelli che hanno fatto il gioco quando l'hanno scritto. Lo sappiamo che... vuoi dire non siete abbastanza cazzoni, questo vuoi dire. Salla, lo sappiamo che Kata si eccita con i cavilli, con le regolette. Esatto. Cioè, per lui il passaggio dalla 3.5 alla quinta adesso lo faccio anche trauma. Per la mano. No, invece mi è piaciuto molto. Cioè, vi ricordate il suo ladro in 3.5? La proficiency la posso sommare. Scusa, Salla, ma guarda che occhio Ispo che se vomitava da Milo qua. Guarda che occhio Ispo. Ma quando vomitava da di quanto era bello. Perché di fatto terrei solo sulla costituzione, no? Come già da l'anno. Però io ho anche la proficiency. Non noti quanto è sveglio grazie a questo cavillare. Mi sono eccitato. Dai, quindi? Ci controllo, scrivimelo e poi ci controllo a casa. Dai, dobbiamo fare che ci ritroviamo in città. No, un attimo, fermi. Andiamo in città. Lui, esatto, lui sta tornando in città. Ho fatto l'armeria, finisco nel reattore, guarda. Bene, voi siete nella torre che state discutendo su che cosa fare. Esatto. Salla voleva cercare se c'era qualcosa di... Perché Giulio era uscito. Giulio era uscito, poi era anche tornato. No, era rimasto lì dalla porta poco più avanti. Perché i lupi poi erano andati via, quindi non c'era più nulla da fare. Sono furbi. No, no, Giulio, non dirlo. Le cose di punti di vita. Ma no, ho descritto l'altra volta. Cioè, allora, ma con noi? Lo sappiamo già come è fatta sta cazzo di torre. Con noi abbiamo il corvo dei Martinkov. L'avete ancora? Sì, abbiamo un corvo che serve appunto per questa evenienza, cioè di radarci che torniamo verso e che ci può venire incontro. È un corvo. Dopo viene maledetto. O qualunque messaggio, cioè è un corvo che in teoria torna. Non lo sai che se uccidi i corvi vieni maledetto. Quindi mandate il corvo. Dipende, mandiamo il corvo. Andiamo anche a pipistrelli. Io ho ucciso un corvo e sono stato maledetto. Guarda che te lo mangia più veloce. Mandare anche il pipistrello. Quindi mandate il corvo e il pipistrello. No, mandiamo il corvo. Ma che cosa sì, scriviamo? Super amici. Ma mandiamo sempre coppie. È una buona idea. Io uno dei due lo mangia, l'altro. Ah, è vero, tra le altre cose, dovevate anche ritrovare quell'elfo che si era allontanato per fare un favore. Già, è vero. Vabbè, sì, non è che possiamo andare dietro tutti, cioè, no. Allora, vabbè, questo se lo deve ricordare l'elfo. Ok, non gli ho fatto un cazzo, va bene. Allora, beh, è uno della sua razza. Quindi mandate un animale volante. Quale? Pipistrello. Metz diceva corvo, io. Ne mandiamo tutte e due. Sì, ho letto di che. Metz diceva corvo. Però. Io non me ne frega un cazzo, basta che... Sì, il corvo, cosa ti può servire? Però il corvo cosa diciamo? Di incontrarci a metà, che dobbiamo andare verso la foresta, oppure torniamo a là e facciamo un riposo e poi ripartiamo? Secondo me tanto vale che andiamo in città, perché tanto le tracce di ritardo partono da lì. L'Aquila è intelligenza 2, voglio solo... Sì, ma il mio pipistrello è un non morto, cioè non credo che lo voglia mangiare. Ma per esempio l'Aquila gigante, secondo me è intelligente. Ci bello più grande. Vabbè, raga, mandate allora il messaggio è questo. Nel messaggio c'è scritto fuori dal messaggio c'è scritto per Idovon. Cosa? Per chi cazzo è? Patk. Per il minimo nono settembre. Si chiamava Idovon. Idovon. Un po' è vero. Per Patk e poi dentro c'è scritto torre vuota. Saliti di livello. No, level up. Torre vuota, lupi nella foresta. Vabbè, rientriamo. Tu lo stai spendendo per Patk, ma i cosi viaggiatori vanno in un luogo, non Kretzky, in infatti. Sì. Ah, è per questo che a Kretzky è scritto per Patk. Non c'è francobollo. Così che Martinkov, che lo riceverà, vedrà per Patk e dirà: chi cazzo è Patk? Va bene. Il corvo parte. Quando si allontana attraverso le punte degli alberi, comincia ad alzarsi la nebbia dalle sponde del lago. Porto maggiore! Oh, che bello! Che gran bel paese. Il turismo sta aumentando a Porto Maggiore. Minchia. Era veramente come stare in Barovia. Adesso dopo ho capito Barovia. Vi ricordate la torre? Braulio? No, la torre è al centro di questo isolotto. Questo è il mio bicchiere. E adesso è la torre. Che è collegato. Non vuole niente, mi sta facendo vedere. Mi sta facendo vedere la mappa, non vuole niente davvero. Voi siete qua. Al centro del panettone. Cosa sta succedendo? Voi siete magnati. Io voglio essere un candito. Noi siamo al centro del panettone. Però è rimasta solo una sola fetta. Intorno siete su un'isola e c'è questo camminamento di terra. È stato bello. Che porta alla terraferma. Sulle sponde del lago si alza la nebbia. E adesso puoi cagare il cazzo la strada. Cioè si alza nel senso che aumenta o nel senso che si dirada e quindi vediamo? Ah, giusto, si aumenta, si alza un muro di nebbia. Se si alza la nebbia ci vedo, era quello il senso. Una carrozza che voi riconoscete perché l'avete già visto. Perché io sono anche viaggiato. Una carrozza che hai vandalizzato ancora prima. È la stessa, l'ha recuperata. L'ho bruciata. Ha fatto così e si è riparato. Parcheggia alla fine del camminamento. Okay. E vedete scendere. Ma il corvo è andato o si è schiantato sul muro di nebbia? Poi non lo vedete più perché la nebbia blocca la visuale. Scusa, questa lettera sul muro. Il cocchiere. Questa volta c'è un cocchiere. Un tizio con un pesante mantello di pelle nera si sta bollendo tipo da 12 un grosso cappuccio nero la caffettiera esplosa tutto fuso che non fa vedere il volto scende e prende delle cose dal bagagliaio insomma una tazza grande per favore. Cosa devi mettere? Scusa, la torbina? Sì. Cioè, tipo tazza da colazione, tipo da 300 ml. Se ce l'ha. Vezzo, 2,80 non la vogliamo. No, beh, 2,50. Vezzo, una maschera da bagno. Vedete questo qua che prende delle seggiole, un tavolinetto. E oh, partitona di poker sul lago. Due sedie. E le posiziona più o meno a metà del camminamento. Ci mette sopra una bottiglia, due bicchieri e torna indietro. Anche la torre. Ok. E torna sulla carrozza. E torna sulla carrozza. E scenderà qualcun altro? No. Si vede dentro la carrozza. Ci sono due bicchieri. Sì, sono due bicchieri. Si vede dentro la carrozza. Almeno una persona scenderà a parlare con qualcun altro. Se non c'è nessuno, non scende. Se c'è qualcuno, allora probabilmente scenderà qualcun altro. E si vede dentro la torre, posso provare a... Mi avvicino. Ok, vabbè. Posso fare una percezione? Per rubare qualcosa. Aspetta, posso fare con percezione per provare a vedere all'interno del finestrino se c'è... Della... Tra l'altro, mentre loro parlavano di cazzate, io ho cercato in giro la torre se potevo rubare qualcosa. Sì. Allora, sì, puoi provare. 16. Vedi all'interno della un finestrino dove riesci a scorgere del movimento, quindi almeno un occupante all'interno c'è. Tu vuoi rubare qualcosa? Ci sono delle cose. Allora, no. Sono interessato a oggetti. Non è specificato che il ladro può rubare per sé. Come scusa? Solo per dare puoi combo. Rubare per gli altri. Però... Ma dici che l'ho rubato, posso mantenere la roba. Ne è evaporata a metà, quindi te l'ho rimessa su. No, no, questa è molto calda. Non importa, insomma, questa. Cioè, non sta di fare. Non vuoi l'altra? 150, va bene, uguale. Dicevo, che posso tenere. Se vuoi, te la lascio andare un po'. L'unica cosa ricordo non, cioè, non più grandi di questo. Mm-hmm. Cioè, Sala vuole qualcosa, probabilmente. Cioè, possibilmente che non abbia valore, giusto qualcosa da prendere così, per sfregio. Se ha valore è meglio, però. Scusa, ma lasciagli la testa. Dai, prenditi la testa. Non credo di averla presa io. La testa è fammi. È una listana, è una zingaretta. Dai, sarà piccola la testa. Okay. Allora, fammi vedere. Ma è rinsecchita poi. No, non così. Se ha la testa rinsecchita, sì. Non era una testa rinsecchita, era tipo mummificata. Era immersa in oli profumati per non far sentire l'odore di... putrefazione. Profumo. No, ma se è una testa rimpicciolita la voglio. Non è rimpicciolita. È normale. Allora no. Però è trattata per... Non la testa rimpicciolita non li facevano rimpicciolire? Ne toglievano il teschio e... Ecco. Sì, non le ossa non è che... sì, sono tolti... Cosa? Toglievano il teschio. Puoi togliere il teschio. Non hai capito. Posso toglierlo io, però non sarà un lavoro. Sei un chirurgo. Non sarà un lavoro molto preciso. Sto pulito. Vabbè, easy cut, non sto arrivando. C'è tipo un quadro, lo posso ripiegare tutto. Se mi pare. C'è il contenuto del baule. Volevo trovare la descrizione. C'è un fermaglio per capelli. Sulla testa, sì. C'è un fermaglio per capelli sulla testa alla vistana. Sì, quindi siamo da zingari. Sì. Ma da qualche parte l'avrà rubato. Ma rubare le razzi non è rubare veramente. Beh, oddio. Il codice dei ladri, cioè. Non c'è quello che aveva preso le pietre preziose ai vistani. Erano mie, non erano rubate. C'è sulla grande stufa di metallo c'è una caffettiera per farsi il caffè. L'unica. Se ti interessa. Il caffè. Esatto, il devi caffè. Solo trovare chi c'è di caffè. Come il caffè? Devi solo riuscire a coltivare del caffè qui. È la cosa più semplice, direi. Puoi comprarlo dai vistani. E altre cose, c'è un'armatura pesa sul suo manichino. Nel senso, in Europa, nel nostro mondo, non c'era perché che ci sia come esistenza in questa zona, però che magari ce l'hanno. Caffè d'oro, può essere. Sì, caffè d'oro. Sì. Allora prendo il fermaglio dei capelli da vistana. Se c'è davvero, esiste davvero. Sì. spillone per capire. Senti. E prendo la caffettiera. Un altro po' di amaro cat. Sì, grazie. Quale? E riprendo quella. Ah, mi è piaciuto il pelino. Sì, non è male. Mi piace l'assenzio. Ma è più per il. Gli basta, per l'altro. Basta. Mi è piaciuto. Ma com'è contento? No, no, mi fa piacere perché a me fa cagare. Lui non piace, quindi lo sta rifilando. Oh, mi piace. No, è forte, è molto forte. Ciao, trovi anche nel baule dove c'era la testa un boccettino degli oli con cui è stata trattata. Quindi, ti avvicini. Ah, tu Vez hai sentito cosa è successo? Come potrei non aver ascoltato? È arrivato, si è alzata la nebbia. Sì, no, quello l'ho sentito. È arrivata una carrozza. Sì. Una carrozza di strada. Sì. Giulio, ciao. Esatto, è sceso, è mio ufficio. È sceso un cocchiere che ha portato un tavolino con due sedie in mezzo al pontile che collega la torre alla terraferma. Aspetta questa cosa. Sì, l'ha detta catta tipo 5 minuti fa. Con due, e ha messo due bicchieri di. Ho solo una domanda. E una bottiglia sopra. Se il è salita la nebbia, come facciamo a vedere questa cosa? No, attorno. Alle rive del lago. Dove ci stanno i nani. E quindi per te, Giulio, perché tu sei l'unico fuori, giusto? Io sono fuori, sì. Ok. Vabbè, cioè siete lì, siamo tutti lì vicino. Io sono arrivato tipo davanti alla soglia per guardare. Ci sono solo due bicchieri. Voi giocatori, però. Però sì, vabbè, ma non so se è per me o no. No, lì c'è. Gli ho detto che mi avvicino. Abbiamo fatto un riporto breve o no? No. L'acqua. I nani, i nani, i nani. Mi avete visto. Vabbè, io mi avvicino comunque, nessuno mi fermo. Vita, fatta. Aspetta! Wow. Potrebbe allora essere una trappola. Vabbè, ormai. Vabbè, lo fa. No, lo faccio davvero. Cioè, gli metto la mano sulla spalla. Aspetta, potrebbe essere una trappola. Sarà sicuramente il maligno. No. Era proprio per questo che quello è esattamente il discorso che avevo fatto io. Ho capito, cioè. Stop, o ce la facciamo a nuoto o qualcuno va. Cioè, sì, io sono fuori comunque. Ah, aspetta, sono dentro. Ho mandato il corvo. Sono aspetta, dentro. Rimaniamo uniti, rimaniamo qui, sentiamo cosa vogliono. Ho capito, ci sono due sedie. Qualcuno deve andare, evidentemente. Andiamo io e te, ci sediamo, ci beviamo il vinozzo. Poi ci bracchiamo. Andrò io. Arrivoli. Non ve la aspettavate questa mossa, eh? Vuoi dar duro? Brutto? Vai, fa la di. Ci piace? Fa la di, no. Dopo che ha detto fanculerina va anche con Strasta, vedi? Bene, vai tu. Ah, non me l'aspettavate questo, eh? Il nuovo alleato di Strasta. No, io eravate lì tipo, voglio passeggiare con Strasta, lasciami, stupido. Mi fa, no, fermo. Vado io. Ha visto lo no. Ma io in realtà avevo già detto che andavo, mi sono fermato e basta, però se vuoi andare tu, va bene. Sono andato. Rimani indietro. Strada ormai ha troppo potere su di te. Ok, allora vado nel principio. Cioè, vedi due cretini che litigano spallate. Occhio più veloce! Dai! Allora, possiamo anche andare insieme se vuoi. Per manina. Andiamo insieme. Sono due bicchieri. Esatto. Non specifica. È chiaro che. Vabbè. Potete andare insieme. Andiamo insieme. Ci sono due. Piace ora? Io sto in piedi, guarda. È un tavolinetto. Tutte di ottima fattura, la bottiglia. Anzi, faccio. Serve una terza sedia. Metti un coperto. E chi è con noi qui? Strand. No, ancora nessuno. Io perfetto, Giulio, per me per te. Io da lontano, visto che c'è movimento dentro la carrozza. Cioè, noi arriviamo lì al tavolino, ancora non c'è nessuno. E nessuno sta per scendere dalla carrozza. Nessuno sta per scendere. C'è la bottiglia di vino. C'è una bottiglia di vino. Prendo la bottiglia, la apro e la annuso. Io invece urlo. Mostrati, siamo stanchi dei tuoi giochetti ormai. Le tue parole riecheggiano. Mi verso un calice di vino. Non ho neanche la palla di fuoco. Verso il vino e ha un aroma molto corposo. Tu lo vuoi? Un vino rosso. No. Richiudo la bottiglia e l'appoggio. Vabbè, io da dietro, se vedo che si sta verso. Non berlo! Non so versato. Ci sta a cazzo, la paura di. Ok, avanzo verso la carrozza. Io mi volto verso. Come cazzo ti chiami? Verso Garrosh. Faccio così. E assaggio il vino. È un buon vino. È buono. È buono. Perché? Passali un po'. Avanzo verso la mia. Vedi, ora che abbiamo il vino ci prende per il culo facendoci, dandoci del vino, cioè capisci? Però questo è più buono. Forse era proprio questo il messaggio. Dopo mesi per... Maledetto, maledetto. Quindi tu vai dritto. Se io vado verso la carrozza. Io no, io mi siedo. Tu ti siedi. Di lì tipo il nostro è più buono. Cioè di meno la vuole dire. No, mi piace più questo. Sei strano. È buono. No, in realtà non l'ho assaggiato quello di Martin, quindi non lo so. Non l'ho bevuto. Non abbiamo bevuto il vino. Cazzo, abbiamo... No, in realtà... Ma porca... Ma cioè, che... l'abbiamo detto in realtà. Ok, arrivi in prossimità della carrozza e... La porta, lo sportello si apre. Sì. Chi c'è dentro? Vedi una persona chiaramente nascosta dalla paratia. E la sua mano si tende come per dire: prego, vieni pure. Ci sono dei mano come è fatta? Sì, ci sono i cavalli della carrozza. È molto curata, liscia. E... Donna o uomo? Uomo. A che distanza è la carrozza? Dalla torre. Dall'inizio del passaggio? Dall'inizio del camminamento? Mm-hmm. Sì, più o meno 200 più. Piedi? Quanti piedi? 200? È lunghetto il camminamento. Sì. Non mi cazzo invisibile. Beh, basta che vai nella nebbia. Senti una voce che riconosci essere quella di Strad e... Cioè, prego se vuoi, signor Vardistan. Benvenuto. Ah, finalmente ci incontriamo. Faccio. Già incontrato, vabbè. Faccio un po'. Non ci vediamo da un giorno. Faccio un po' dei miei rituali prima dei miei tic prima di salire. Ok. Che è una cosa che ho un po' perso. E nel contemporaneo, nel frattempo vado a sedermi con Giulio al tavolo. Quando entro dico forse io però nascondo la boccia di vino. No, ma dai, mi ero venuto forse prima. Avrebbe fatto prima entrare a uscire, forse avrebbe fatto prima uscire lei. E c'erano due posti. Uno per me e uno per lei, non per altro. Guarda il vero amico, guarda alla fine chi è il vero. Ah, parliamo di sali affari, business time. Siamo un po' stanchi dei suoi trucchetti, signor Strad, Lord Strad, Conte Strad, Mister Strad, dottor Strad, dottor professor, maestro Strad. Non è molto saggio parlare sul cucchiaino e stanchezza a chi deve aspettare ancora come se sanguinasse migliaia di anni per rivedere colei che mi state celando. Ti lascio, non vorrei disturbare, però stai schizzando. Perché è qui con dottor Strad? Conte Strad. Passavo. Devo dare i punti vita. Dovete sapere che. Ah, quelli nuovi, sì. Cazzo, l'ha detto che volevo quelli. Dovete sapere che. Sto prendendo un D4 proprio per decidere. Mi devo occupare. Questo però è finito. Lo dovrei aprire un D3. No, posso aprirlo anche nuovo. No, non anche il per entrare. Ogni tanto, signor Vardi, strano, mi devo occupare di amministrare la giustizia e le leggi nel mio regno. L'altro non mai purtroppo sono i miei compiti. Quindi è qui per proprio cessarci. No, nessun processo, però semplicemente verificare che venga rispettata un'antica legge di frontiera che prevede il pagaggio di un pedaggio a chi vuole attraversare questo pontile. Il pagaggio di un pedamento. Beh, io quasi quasi potrei sbriciolare. La polvere di pasta di strega che ho dall'inizio nel vino e poi iniziare a berlo per farmi un viaggione incredibile. Bellissimo, ti prego, sì. Ironico che nella nostra lotta atavica che stiamo conducendo lei sia qui per un mero atto di bullismo. Oh, è tipico di me. Purtroppo forse è un modo per dirci che non ci prende sul serio. Oh, questo non ci sono dubbi. Cioè riesci a farti bulleggiare ancora di più, cioè. Beh, di questo può essere solo a nostro vantaggio. Di folle. Folle! Ah, ci sono stati più di un folle che sono messi in contro di me. Cosa vuole? Purtroppo di occasioni come questa capitano raramente e a me piace giocare un po' con il mio cibo. 97. Per quanto non sia dovresti, molto dovresti educato, è un vizio. So che ormai hai detto no. Amen, però forse magari. No, ha detto non ce l'ha lui. Ce l'ha. Ha detto che non c'è. Io ve l'ho detto che secondo me c'è qualcosa tra le fazioni al servizio di strade. Voi, gni. E quindi volevo. No, avete detto gni, me lo ricordo perfettamente. Cogliere l'occasione sia per dileggiarmi un pochino, sia per darvi un po' di incitamento. Un po'. Anche e quindi il pedaggio per passare sarebbe? Oh, è una legge molto antica e semplice che recita più o meno così. La tassa per il passaggio è quella di una testa per una testa. Ah, mi avvicino fino a 60 piedi. Una testa per una testa. Noi una testa ce l'abbiamo. Io sono invisibile. Io sono al tavolo con Giulio. Scambierei volentieri la mia con la sua. Non credo che si possa fare, ma sono sicuro che troverà un accordo con i vostri amici. Così moriva. Beh, anche morivi anche tu. Vabbè, era perfetto. No, esatto. Cioè, era perfetto. Sì, io sono un paladino. No, era sensato. Ah, ce l'ha. Beh, se lo ci vuole provare, nulla le vieta di farlo. A parte, forse. Beh, pensavo che fosse magari quadraggio. Comunque capisco che sia una cosa un po' diversa. Comunque sì, vi richiedo anche di rispettare il regolamento di questa frontiera che impone di passare uno alla volta, ovviamente, attraverso il ponte. Tuttavia la frontiera di che cosa? Di quel che collega la terraferma alla torre, all'isola. Una testa per una testa significa? Esatto, cioè, non siamo già passati 12 volte. Esatto, vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo, se non c'è nessuno che controlla che venga rispettata la legge. Non c'era quello che chiedeva il fiorino. Esatto. Ah, quindi tre teste per... Una testa per una testa. Ah, una testa. Noi potremmo avere una testa. E quindi garantirebbe il passaggio di una testa. Quindi una testa a testa. Esatto. Un testa a testa. Un testa a in caso tutti i mongrel dovremmo portarci dietro una testa a te. In un modo o nell'altro una testa verrà riscossa. Cioè, o gli dai una testa o prende la tua. Tu sei ancora un cane. Sì, sono un po'. Troppi, un bel po'. Sì. E le chiedo per favore di informare i suoi compari e ordinatamente di ritornare con il tributo dovuto. Preparo il Trich Plus e i cavalli come. Beh, ha detto una testa qualsiasi, quindi. Sì. Tale fratello comunque. Drago c'è, no? Drago è scomparso quando l'ha ucciso. Lupo c'è. Il lupo. Il lupo è scappato via. No, sono scappati i lupi, è vero. Hanno attivato la trappola. Mi spiace, un pipistrello ci serve. Perché non eravate dei bambini con voi? Io sono. Che ha dei bambini? Non è. Cosa? No. Non ha dei bambini con voi. Non giriamo con i bambini di solito. Una volta ci abbiamo girato, ma era Vallacchi. Sì, una volta, cioè, però l'avevamo salvata. Cioè. Vedi che allora aveva ragione Giulio, bisogna decapitare e tenere le teste. Sì, ma lo dico dall'inizio, però. A quanto pare è una cosa malvagia. E quindi ti chiede per favore di riferire questo e quanto agli tempo altri, abbiamo per tutto quello che volete. Ah, okay. Ti chiede di riferire questo agli altri e appunto di attraversare uno alla volta e di arrivare al tavolino e di sedersi. E io un avvocato, secondo me, incontrerò chi attraversa e incasserò il tributo e lo lascerò passare e potrà andare in tonso dovunque vada. Siamo un po' voglia andare. In tutto cioè cosa sto facendo? Stai tornando a casa. La testa deve avere le orecchie. No, no, ha detto una testa. No, una testa, qualsiasi. Ah. C'è anche caso. Va bene anche quella di un nano. Non lo so. Va bene. Terremo presente questo avviso. Ci conto. Niente, torna indietro e niente. Mi raccomando, ricordatevi di portarmi Irina il più presto possibile. Con la testa tinga. Sarebbe stato da fare, io l'avrei fatto se fosse stata mia. Sì, sarebbe stato figo. Curioso, pensavo che ormai una testa per una testa fosse sulle sue tracce da tempo, altrimenti non sarei qui. Interessante. E poi non mi ha proprio promesso lei di portarmela. Beh, neanche io sei per questo. Che cosa? Lei eri tu. Ti ha dato del lei, non è lei che mi ha promesso di riportarsi. Forse qualcuno ha fatto metamorfosi. Io l'ho promesso a Rezmir. Come si chiama? Kasimir. No? No, a Radin. No, l'hai promesso lui in persona. No, l'hai promesso lui in persona quando è arrivato dopo che aveva con conquistato un tiro incredibile. E lui ha fatto un uno naturale. Vero, io ero giocato tutti. Prima di tutto l'ho promesso io. Vabbè, ci pensiamo adesso. Valutiamo. Ci pensi bene. Non l'ho detto quando. Va bene. Torno indietro e dico: ho incontrato Strad. Simpatico ragazzo. L'avevo mal giudicato. E c'è questa cosa di una testa per una testa. Per cui direi di ammarci di amo e cominciare a pescare dei pesci. C'è una testa per una testa. Noi ne abbiamo una. Ha detto testa, qualunque testa. Però. Però quella ce la teniamo. Pescare dei pesci. No, il fatto che voglia quella della. Cioè, può essere che banalmente voglia quella della vista. No, a quanto ho capito è una specie di cavillo legale. Quindi in realtà basta che gli prendiamo delle teste di pesce. Vabbè, però. Io mi avvicino. Cioè, secondo me è una gran minchiata perché vuole la testa della vista che non poteva prendere perché era dentro un campo di magia. No, perché ha detto una testa per ogni testa. Una testa. Mi avvicino al tavolo. Infatti io pensavo. Ti sei. Ma non ha detto che ci avrebbe fatto passare. Ha detto che ognuno deve passare per una testa. Per cui o ci ammazziamo tra di noi. Scusa, non sento salvo. Ho la bambola di Strad che ho, la testa, e la metto sul tavolo e diventa visibile. Ok, questa è una. Sì, ma lui è invisibile. Quindi appare una testa di bambola sul tavolo. Facendo l'azione diventi visibile. No. Non è, ma io so che Ray sei lì. No. Però lo sospetti perché avete visto fare ste cazzate. Beh, questo è molto inquietante. Quindi, ma almeno una testa l'abbiamo. Okay. Non e c'è. La prendo. In teoria sei tornato indietro. Quindi camminamento ci sei solo tu, giusto? No, io siamo al tavolo. Voi non ok, non siete tornati indietro quando lui. Ah, no, io gli ho chiesto di tornare. Non vieni con me. Beh, sì, ci raggruppiamo perché lui ci deve raccontare cosa. Porta il vino se vuoi. Tanto. Sì, mi prendo il vino. Sì. Ok, quindi continuo a seguire questo bicchiere vuoto sperando che me ne dia un po'. La cosa è una testa per una testa. Prendo il vino e lo alzo verso la carrozza per ringraziare. Il passaggio è lungo 200 piedi. Sì, nel senso il tavolo è tipo a 100. Verso metà, sì. Vuoi spostare abbastanza terra per fare il camminamento? No. Comunque metto la testa sul tavolo. Ok, quindi tu aspetti che gli altri siano tornati, sgattai. Ascolto la storia. No, ma sul tavolo di Strad? Sì. Ah, ma quindi tipo non ci siamo noi? Sì. No, io ho ascoltato la tua storia, sono partito, ho fatto il camminamento. Ah, ok, scusa, non avevo capito allora. Ok. Beh, allora neanche lo vedo. Da una nuvoletta di nebbia non ce l'hai più. Spunta Strad. Oh, sì, ti saluta calorosamente e prende. Sono invisibile. Per lui non è un problema. Va bene. Spiace. E ti chiede come stai, se va tutto bene, in famiglia, tutto. Gli amici, vabbè, lasciamo stare. Bravo, amici. A voi quindi vedete Strato parlare al fuoco. Sì, esatto. Vabbè, però se ti chiama. Vabbè, diciamo che non vedendoti in giro un 2 più 2 possiamo fare. Se poi ti saluta, ti chiamerà per nome. Quindi esamina l'oggetto che gli hai portato ed è molto divertito. E ti dice: prego, vai pure. Grazie. Anche torno visibile, gli faccio. Vabbè, raga, vi aspetto qui. Ok. E lui si rifà di nebbia. Quindi? Mi devo togliere la bambola di strada. Non, non abbiamo altre 5 teste. No, la testa della bambola di strada. È vero. Corpo non abbiamo altre 5 teste. Ah no, 4, lui non c'è, 4, scusa. 5, c'è anche Casimir. Beh, uccidiamo Casimir. No, Casimir non ci serve. Deduci. Ma con attraversare una volta intende essere fisicamente sul passaggio una volta o andare dall'altra parte? No, andare dall'altra parte. Però scusa, puoi andare a chiederglielo se vuoi. E attraversare il ponte, io potrei farmi a nuoto, 200 metri. Beh, in teoria ha detto passare la frontiera. No, ponte. Ha detto passare la frontiera. Vabbè, ma se peschiamo è un lago... che è morto, non ho una canna da pesca. Sì, esatto. Beh, era sì, il lago, abbiamo il coso pacco, il lago era. Non penso che ci sia da pescare, no, il nostro ranch sicuramente ci sarà la mano. Voi non lo sapete, puoi provare. Ah, dov'è il druido quando avrebbe potuto evocare animali da uccidere? Quindi, quando li decapiti quelli scompaiono. Ma nel mostro, scusa, il lupo è andato via. Sì, non ci sono esseri con noi. C'è il pipistrello, ma... Vabbè, allora è chiaro che non abbiamo abbastanza teste, ma perché lui è qua? Quanto pare è per semplicemente sfoggiare un po'... per noia, da quel che ho capito. Quanto pare non ha... Non a meno che non fosse qui perché pensava che noi potessimo arrivare a Irina. Magari ci ha seguiti pensando che noi arrivassimo a Irina e invece non c'è. Potrebbe essere, ma... Cioè magari pensava che... Si è dimostrato leggermente disinteressato alla cosa, cioè non ci ha accusato di dire datemi Irina, robe così. Ha semplicemente detto ricordatevi di darmi Irina, però non è... Vuole giocare, semplicemente... Ma sa dov'è? Ha dato l'impressione di non saperlo. Prende tempo? Se stesse prendendo tempo? E il passaggio sembra solido. E mo la torna. Porca tra. È un camminamento sì. Di terra, cioè di non so. Di terra dici? Sì, tra l'altro quel cantrip bisogna leggerlo insieme perché non penso funzioni come pensi che tu funzioni. Che tu pensi che funzioni. E, comunque sì, è tipo. Non so dove altro ci sono. La lingua di terra. La lingua di terra, sì. E se io andassi con Misty Step puoi provare, ti fulmina sul posto. Quanto è Misty Step? 30 piedi, poco. Il mio alce è scomparso, suppongo. E se lo decapiti scompare. No, non... cosa vuol dire? Io porto una testa poi. No, sarebbe molto crudele. Potrebbe ancora esserci l'alce. Ce l'avevi contro il drago? È morta, mi sa. È morta contro il drago. Oh, penso che tu la cazza. Oppure sì, è morta. Serve una testa anche per l'alce. Ok, io un'idea ce l'avrei e vado dal tavolo. Ok. Io gli mando il mio pipistrello a loro. Perché avete mandato il corpo? E gli scrivo un bigliettino sulla zampa e dico... Non uccidete. Giusto nel caso. Just in case. Just in case, ho capito, rega, se... Cioè, non avete nient'altro. Faccio un perception per vedere se vedo qualche animale in giro, qualche animaletto. Testa. 4. C'è un lucerto. Ah sì? Si rintana in un buco. Caccia lucerto. Lo capisci che è il suo gioco, però. Sta prendendo Il culo. Scusami, Marco. Non possiamo uccidere. Quindi Marco vai da solo al tavolo al centro. Mi spiace. Ti siedi? No, proviamo a ragionare su... Sì. Va bene. Ok. Come agire. Dalla nebbia gioco, si forma la figura del conte, si siede insieme a te e ti saluta calorosamente. Oh, signor Azazet, come mi ha detto che si chiami. Per me sta prendendo tempo. Per qualcosa. Finalmente la incontro di persona. Noi non ne abbiamo tanto. È un grande piacere averla qui nella mia ridente contea. Vorrei poter dire lo stesso. Allora, quali sono i termini di questo accordo per passare? È molto semplice. Secondo me se passiamo non ci uccide. Cioè, voi mi portate una testa e io vi faccio passare. Questa testa può essere qualsiasi cosa? Vendere monete. Sì, poi può essere accettata o rifiutata a mio insindacabile giudizio. Ci sono delle teste sulle monete? Usto la faccia di strada per far apparire, quindi ci mette i cubi di teste sul tavolo. Cosa ha fatto? Aspetta, cosa hai fatto? Ha fatto un'illusione. Invocation che mi permette di usare immagini silenziose. Ah, ok, un'illusione però. Sì. Cioè fa un'illusione di teste su. E lui agita, cioè fa tipo come per disperdere una boccata di fumo di sigaretta, e le teste svaniscono e dice: preferirei qualcosa di più consistente. Erano tecnicamente teste, però. Dove sono? Io qui. Ma avanti così tutto il giorno. Le disperde di nuovo. Sì, il problema è che uno è immortale, quell'altro no. Mi avvicino io e gli lancio una moneta sul tavolo. Ah, quando ti avvicini lui scompare. Perché siete in due. Esatto. Ah. Ok, passiamo e basta. Se mi fa giocare io continuo a scorreggiare in silenzio. Aspetta, siete in due non c'è, potete provare a passare. Ecco, l'ultima volta che abbiamo fatto una cazzata del genere non è finita bene. No, se Marco si allontana... Beh, se muoiono sono due teste per la... Sì, quando Marco si allontana mi avvicino... Aspetta, non le butti via! dal mio punto di vista win. Mi avvicino e appoggio una moneta sul tavolo con il lato della testa, cioè una testa immagino disegnata rivolta verso... C'è la testa di strada. Però non ho capito Marco che cosa fa, torna indietro. Buttalo giù nel lago. Io in realtà volevo andare a uccidere i cavalli. Sì, ma non puoi passare. Non hai i cavalli della carrozza. Ci avviciniamo. Vabbè, se lui vedo che va avanti io non mi avvicino. Tale fratello, tale fratello. Cioè se tu prosegui finché lui non torna indietro io non avanzo. Vabbè. Questo è il senso. Ok. Copione. Quindi tu avanzi fino ai cavalli. Avanzo fino a 60 piedi dai cavalli. Ok, sei a 60 piedi dai cavalli. Ma cazzo, ma il fermento è pesantissimo. Quanto fa? Gli dico 39? Vabbè, tutti i mari. Anzi, 40. No. Uso sussurro dissonante. Hai ragione, differenza. Bravo, Gio. Vai tu 25, 30, hai ragione. Tra i 20 e 30 rispetto a 0. 39? Non spero ancora. Questo? No, lascio. Questo non c'è neanche scritto. 28. 28. Ecco. Qui fa qui per me. Questo. E gli dico, sono un grande lupo cattivo. Volevo un ghiaccio. In comune. Ha dei cavalli, hai detto sono un grande lupo cattivo. Che, vabbè, allora. Vabbè, è come il parlare con i morti che non ti rispondono, la stessa cosa. Vabbè. Almeno Giulio mi capita la diretta. Non importa le parole in teoria, è la melodia. Ok. È l'intonazione che fa. Cioè, la tua intenzione è spaventare i cavalli? No. Sì. Cioè, uccide. No, spaventarli. Vabbè, adesso è spaventarli perché qualcuno può cambiare idea, ma possono morire se falliscono in tiro salvezza. Ti devono sentire. Non mi sentono, quindi. Non sembra che i cavalli si muovano. Ci volevo io. Alle spade. Dillo fuoco. L'abbiamo già vista questa cosa. No, li decapita i cavalli. In effetti a palla di fuoco. No, non ancora. Non ce l'ho, non abbiamo fatto riposo. Vado a fare un riposo breve. Vado a fare un riposo breve. Quindi che fai? Però finché uno di voi due non torna siamo a un impasse. Sì. Oh, qualcuno di questi deve togliere dai coglioni, raga. Io c'è solo lui. Cioè, vengo a prendere. Intanto se vuoi vado a casa. Marco torna indietro, quindi Scio può fare la sua roba della moneta. Esatto. La roba funziona. Anche solo perché ti ho detto che posso farmi metamorfosi. No, è semplicemente temporaneamente, no, come faccio, dato che sei in un altro luogo, no. A farti arrivare. C'è una regola che dice che se in un altro luogo non posso essere. In quel momento stai viaggiando, cioè stai viaggiando. Viaggio più lungo del mio. No, in realtà c'è già arrivato, no. Io ho appoggiato la moneta sul tavolo. Appena partito il corvo che gli si è arrivato. Era un'ora di viaggio a piedi. Sì. Quindi vuol dire che. caracterina gigante, ci mette meno di mezz'ora. Sì, okay. Sì, e poi il tempo che Giulio va in bagno e tutto ciò. Beh, Arz, faccio finire sta roba, poi arriviamo. Tu, dai, tu sei lì. Tanto una volta che sei lì, perché devi tornare. Torna indietro e aiutaci. Ma ci ha fatto perdere 50 minuti per il tuo incantesimo di me. No, in realtà l'abbiamo risolto abbastanza velocemente. Vabbè, funziona o sta roba di Sceo? Che roba di Sceo? Sceo va lì e mette una testa, la moneta. La moneta, ok. E c'è solo Sceo, ti siedi? Sì, c'è solo Sceo. No, okay. Sto lì, appoggio la moneta. Ah, ok. Allora, ricompare lui e la prende e dice: bella pensata, signor Garrosh. Lei è intelligenza 8, non potevo pensare. Ma di queste, questa testa ce l'ho già. Dab, clamorosa. E la buttata del lago, perde anche la moneta. Vado io. Sì, io torno indietro. Mi siedo. Con la coda tra le gambe. Provi con questa. Ricompare Strad. Ti saluta calorosamente. Andiamo a combattere Strad, dai. Salve. Bentornato Atanas, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Allora. La famiglia. La carezza un bacio. Sì. Cosa mi racconti? Ma siamo arrivati qua e adesso vorremmo andare via da qua, però a quanto pare serve una testa. Certo, cosa c'è di più semplice, soprattutto per te? Che hai una testa? Ovviamente. Occhiolino. Beh, lei una mia testa ce l'ha già, in realtà. La rivolgo indietro, padrone. Beh, non del tutto, e in realtà... L'ho buttata, non so dove l'ho messa. Esatto, no. Non saprei... onestamente dove si trovi? Sul collo. Cosa significa che non saprebbe dove si trovi? Non è qui con me. No, infatti era al suo castello l'ultima volta. Ora non più. Spero che sia ancora lì. No. E chi l'ha portata via? Devi sapere che ho trovato una cosa molto interessante da fare con quella testa e l'ho data a un giovane disperato. Spero che tu sì, che bello, faccia di cazzo. No. Lo penso però. Ricordati che è il tuo padrone in teoria. Comunque stai un po' con lui. No, io ho giurato fedeltà, però. Però se ha dato via il pegno della mia fedeltà, io non sono più vincolato. Pezze, quella merda. Non che lo fossi particolarmente. Non che se lo sia mai stato, però. Ho trovato un giovine disperato e un po' mi ricordava te. E visto il mio buon cuore, ho deciso di allietare la sua sofferenza con un la piccolo testa pegno di una bambola. Perché non sei ripreso Irina? Perché non hai la foto della torre? L'ho provato a farlo molte altre volte, ve l'ho anche spiegato, eh? Una foto della torre, sì. Sì, ma sa dov'è, no? Non precisamente, no, ho qualche indizio, qualche idea. Ma anche se lo sapessi, so già come va a finire. Eppure un suo servitore dovrebbe averla. Sì, magari ha qualche scultura. Bravo, bravo. Sì, qui ne ha un paio. Magari un bambino che era smarrito, a cui lei ha dato qualcosa che non avrebbe dovuto dare. Beh, una volta che un possedimento è in mio possesso, c'è un quadro, posso dentro, farne quello che voglio. Sì, sì. Magari anche disegnare. Ma sono lì, avete preso dei libri, ci sono. Non so che fine abbia fatto. Lei non ha idea di dove fosse, di dove sia il figlio del borgomastro? Testa di rapa. No, l'ultima volta che l'ho visto era nel mio castello e dopodiché è tornato alla volta di casa sua. Spero che stia bene. Noi l'avete visto? Sì. E come è fuggito da Kretsk. Oh, che disdetto. Dopo che Radi aveva attaccato la città. Oh, tipico di Radi. Solo per la testa, anche per l'oggetto. E quindi? So che sei diretto qua. E Irina non è più qui. Ah, era qui Irina. Era qui. Un bel nascondiglio, complimenti. Bene. Ma saluto da poco. Dove sta adesso Irina? Oh, comunque. Non mi interessa tanto sapere dove dovresti sta. Chiederlo al figlio del borgomastro. Non vedo che collegamento possa essere. Lui è venuto qua a prenderla. Da quello che so. Dagli indizi che ho. Ma sa molte cose. Complimenti. Ma sa, c'è un collegamento. Sono arrivati ormai. Insieme, non so perché. Perché è il figlio del borgomastro ha la mia faccia. Ah, interessante. C'è una certa somiglianza, effettivamente. Bene, allora se lo ritrova, va benissimo. Se lo ritrovo, mi riprenderò la mia faccia. Oh, prego. Lungi da me impedirglielo, per quanto non mi sembra che quella che ha lei mi sia diversa dalla sua solita. No, è ritornata normale. Però ciò non toglie che lui abbia la mia faccia, io la rivoglio. La mia faccia! Giulio. Può andarla a prendere, sì. Basta pagare la tassa della dogana ed è libero di andare. Sono delle statue queste, sì, dei doccioni. Entro e prendo l'elmo dell'armatura. Magari tipo di drago. Prendo l'elmo, torno indietro, prendo l'elmo dell'armatura e glielo poggio sul tavolo. Ok, lui ricompare e dice... Beh, ci siamo quasi, ora basta riempirlo. ci sta però, eh. Sì, no, ci sta. Vabbè, già provato. Ragazzi, attraversiamo e basta, dai, facciamo una breve. Sono dei doccioni o no quelli, secondo te? Ci sta. A forma di drago, sembrerebbero. No, ho provato, ma... Vuoi provare a portargli una testa di quelli se sì. Fossero delle statue? Sì, esatto, ti danno giù due o quattro, non so quante siano. Mi piacerebbe dirtelo con sicurezza, beh, però supponiamo che non sia. Lo straddico. Mi dica lei che testa vuole. Abbiamo? No, su quello. Il chiodo. Mi lascio. Io gliela procurerò. Il chiodo si chiama testa. Tu quale testa vuoi portarmi? Dimmi. Quella che vuole lei. Come servile. Ah, sopra del chiodo si chiama testa. Sì. Una persona molto. È un chiodo? Gentile, signora. Se è una porta, c'è del legno dentro. Beh, si sta bene. Con non c'era bisogno di legno. Mi porti. Ehi! Troppo facile! Senti, ho l'imbarazzo della scelta. Però si ricordi una cosa? Sì? Quando io le ho giurato che l'avrei servita, le ho detto che... Non l'ho servita. Vabbè, in parte ci ho provato. Quindi ora che le sto chiedendo quale testa. Non ho detto che ricordi quella testa. No, glielo dico prima che me lo dica. Che tendenzialmente non mi piace far del male ai miei amici. Ma chi è che piace far del male ai propri amici? No. Vabbè, in effetti da tutti i miei personaggi fino a questo, però vabbè. Oh, la domanda c'è la distribuzione di punti di stat di compreso. Ma la domanda è chi sono veramente i nostri amici? Buona domanda. Spesso. Spesso busiamo. Dai, catta. Mi porti la testa dell'elfo, andrà benissimo. Ok, dell'elfo. Dai, una tara grande, raga. Perfetto. No, casmistica. Nel frattempo io cerco se trovo un chiodo. Torno indietro. Io me lo voglio, devo trovare per aggirare. Allora, vorrei provare a prendere quelle lì. Va bene. E sì. A che altezza sono, secondo te? C'è scritto 20. C'è testa c'è una finestra vicina, testa del chiodo. C'è una finestra vicina. Il chiodo si chiama testa, la faccia sopra. Quindi dovrei calarmi lì. Torno indietro e mi siedo. Sono a riva, affilando le lame. Ok. Allora mi leggo. Cioè, non posso farlo finché c'è Varistra. E mi calo giù per prenderla. Faccio un athletics. Sì. Ok. Quindi lui fa questa tu cosa. Può passare solo se gli porti la testa delle. No, lui ha detto qualsiasi testa, ha detto quella che vuole lei, e ho detto allora quella dell'elfo. Ok, sono attaccato con la corda su. Ok, arrivi sul gargoyle. E no. Stacco la testa? No. No, l'elfo è scarso in realtà. È pietra, allora no? La uccide. No, palle di fuoco. Vabbè, una volta morto, non è una volta in corpo a corpo la palla di fuoco. Facciamo come con Biancaneve, mettiamo la testa di un generale. Beh, io ho... Io intanto ho cercato un chiodo. Io dovrei avere un martello nell'Hunters. Vabbè, al massimo ti do no, nel, nel Monster Hunter. No, nell'Hunters Pack no, nel normale Explorer ci sarà un martello. Oppure se... Beh, un martello arriva un guerra, corvo a prezzo. Te lo porta. Prezzo, io ho un martello da guerra. Ma tu sei in giro? C'è un messaggio al gatto. No, sono lì alla torre, sempre. Siamo tutti lì. Siete lì che non tutti. Io sto cercando un chiodo. Sì, ma da due ore. Quello che vuoi in realtà, perché non dura tutto la formula. No, ma sti cazzi. Chi ha la testa della Vistana? La stacco con le mani. Io ho la testa della Vistana. C'è scritto per patto. Torre vuota. Per quello che pensavo di dirsi quella. Giusto? Sì, troppo tardi, fuori quella del mi spiace. E... No, vabbè, ma ve la do la testa della Vistana, che qualcuno passi con quella. No, no, no, no, aspetta, teniamola. Secondo me il lui vuole quella. Torre vuota, quindi... rientriamo. Uso una 3DX anche per staccare la testa. Ok. Con le mani, la prendo così. Oh, 26! È mia! Mentre voi state rientrando. Sì, per quello e che poi sai, risalgo. Okay, hai una testa di gargoyle. Vado dall'altra parte e faccio la stessa cosa. Dall'altro gargoyle. Ok. Ti faccio un athletics sempre per calarmi. La testa intanto la tengo dentro l'altra. Ci sono così non tutti. Ci cadi, non si gli rompe, elfi, ci sono i corvi, ci sono gli umani. Boom! Faccio un 27 per calarmi. Casimir, è con loro che sta per essere decapitato giù. 27. Io hai un'altra testa. Sì. Sto pensando a come uccidere Casimir solo dal primo giorno che l'abbiamo incontrato. Va bene, come io ho due teste. Le altre persone che avete incontrato. No, non tutti. La maggior parte. Allora scendo ed erano gli unici gargoyle che c'erano, però. Mm-hmm. Scendo giù e dico: ok, rega, abbiamo due teste. Ora ci vuole la lucetta. Io me ne esco dalla torre con un chiodo. Ehi, anche questo è un. Vabbè, tu intanto prova a fare la tua giochina. Vabbè, vado e appoggio il chiodo sul tavolo. E avete già quattro teste. Non si presenta nessuno. No, ne vabbè. Abbiamo due. Vabbè, ma proprio così, non è possibile. Se io mi avvicino lui appare. È la testa del chiodo, è italiano però, se questo non sa l'italiano. Vabbè, va, non lo possiamo usare. Perché no? Non è un famiglio. Sì. Basta ammazzarlo. Vardi stranco. Se lo ammazzi. Sì, esatto. Bardistran, tu intanto passa, noi qualcosa troviamo. Scompare, se non mi fido di voi. Scompare. Noi devi passare. No, no, beh, vabbè. Beh, salviamo tutti insieme e poi passiamo una volta. Che problema c'è? Non sono. Cioè, è una morte in aggiunta. Cerchiamo degli animaletti. Ed è un animale evocato. Di solito scompaiono quando muoiono. Allora non può esistere. Allora, cerchiamo sta lucertola. Ci mettiamo a cercare le lucertole. Ok. Vabbè. Ah no, tu non ci sei. E niente, facciamo in modo di catturarla. Dai, chi ma è che ha una destrezza valida? Due destrezza normale. Tira, fai un tiro. Io vado da Kevin. Oh, bravo, Sceo. 22 sì, per catturare 22 una lucertola. 22 per catturare una lucertola. Cioè, su che cosa? Che cosa fa? Ma ha fatto tirare destrezza. Per catturare una lucertola, di destrezza. Gli dico, guarda, la lucertola è lì. Vabbè, quello che vuoi è 20 naturale, però. Cioè, prendiamo il tempo per trovarla. Non c'è più nessuna lucertola. Dai. Che master. Ci prendiamo nella prossima situazione, Antonas. Vabbè, mi dici come posso usciamo? Usarlo? È un come pensi che ne potremmo uscire? Tantissimo 20, come posso usarlo? Ma cos'è da Casimir adesso? Sì, ci sto parlando. Inizia a fare salti mortali e capirà la lingua. Ok, vai. Immagino che cosa può averti chiesto. Quindi ce ne manca una, beh. No, ce ne mancano tre. Due. Scusa, ne abbiamo due, ne mancano due. Siamo due più siamo tre più Sventura, quattro e Casimir e cinque. Casimir. E ne abbiamo due. Hai ragione. Ma Casimir è una testa. Io sono passato, ero invisibile, potevo passare comunque, ma sono passato. C'è un unico modo con cui possiamo andarcene tutti noi altri. No, mi sono messo davanti al tavolo per quello. Io non ho intenzione di morire per voi. Parole dure però così. Ma non sembra abbiamo molte scelte. No, piano, che cazzo dici? No, sì. Che bello. Noi non abbiamo molta scelta, sì, siamo pieni di animali, cazzo dici? Che cazzo sta dicendo? Al massimo aspettiamo e andiamo a riprendere delle teste e le lanciamo dall'altra parte. Comunque ci manca comunque una testa. Magari potrei espiare i tuoi peccati. Dovesse sacrificarsi lui, no. Giulio, tieni sta testa e basta. Taci, ma fa culo, tu stai cercando lucertole. Tu stai cercando lucertole, non rompere il cazzo. No, cerco queste cazzo di lucertole. Sì, non ci sono, non le trovo. Ma prima c'era. Sì, adesso ma scusa Marco, passa e basta. E da solo basta e basta, vedi cosa succede Marco. Ma lui ti ha raccontato cosa è successo l'altra volta? No, non, non lo sa lui. Non hai detto cosa è successo l'altra volta? Quale altra volta? Quando vi è fatto il processo, quando un cretino ha dato un po' no, di solito non va a finire bene. Cosa è successo? Ma a me non è andata male. Ho perso tipo punti ferita a cazzo tempo, cioè, ha perso nella costituzione ma io l'ho presa. Vabbè. Esatto, Marco, aspetta, mi passo con te io. Magari Giulio li prende anche stavolta se uccide Casimir. In realtà se Casimir. Magari li prendo, me l'ha chiesto lui. Se Casimir si sacrifica con quella della vista, non abbiamo niente. Ma vi rendete conto? Cioè della stupidità? No. Io sto parlando con Casimir, tu stai cercando lucerta, no? Non per caso. Sei disposto a giurarmi? Sì. Che mi riporterà in vita. Cosa ne è? No. Come tua sorella. Esatto. Tu e tua sorella. C'era no. Prima, c'è anche adesso. Tu gli stai chiedendo se puoi decapitarlo. Sì. Cioè, no, io non sto chiedendo se posso decapitarlo. Gli ho fatto intendere che l'unica maniera è che lui muoia. Piuttosto non lo chiamo. Però non l'ho aggredito e tagliato la testa, semplicemente, gli sto parlando. Questo è già un passo avanti. Esatto, un grande passo avanti. Inaspettato. Sì, no, ma nel senso. Una palla di fuoco adesso ce l'abbiamo. Se potessi farlo potrei andare a caccia adesso. Eh? Se potessi farlo potrei andare a caccia e poi riportarlo qui le teste. Vai a caccia. Al tempio. Ma il problema è che secondo me Strada mi incula. No, c'è la neve. C'è la nebbia fitta e messa apposta. Sicuro. No, che racchiudono un oscuro potere. Quando provo a spostare una testa da una parte all'altra. Uno di questi. Aspetta che stanno giocando. Parlate che chi sta giocando. Allora vuol dire che ti piace. Aspetta, Casimir mi ha chiesto di giurargli che lo riporterò in vita. Giurelli ammazza. Giurelli. E adesso è un falso di merda. Mettiti in fila. Esatto. Infatti io ho detto, beh, è tua sorella. E lui invece mi sta facendo una filippica su dei sarcofagi. Vabbè, mettiti in fila. Prima c'è l'amico di Vez. Qual è l'amico di Vez? Ah, ok. È mio personaggio. Dei sarcofagi? So, sì, quelli. Che racchiudono un oscuro potere. Uno di questi dà il potere di riportare in vita i morti. Anche Ana che è stato senza, così. Senza limiti. No, so. Lo saprei se ci fossi riuscito ad arrivare. Di sicuro vogliono sempre qualcosa per qualcos'altro. Se sarà il mio potere farlo. Quindi piuttosto che nuotare dall'altra parte. Ma Strada ha detto che passare alla frontiera, non per forza la lingua di terra, quindi in realtà uscire da questa zona della torre indipendentemente dal modo. Scusa, non puoi fare la tua cosa del tunnel? Non posso, non lo so, il master ha detto dobbiamo parlare. È la stessa cosa, poi se vedi un invisibile percepisci chiunque si sposta. Non lo so, quello che mi ha insegnato, se puoi incularti ti incula, quindi ci ho provato la deduzione, però non è che abbia funzionato così tanto bene, quindi no, sono sincero. Mi è rimasta l'unica alternativa alla sua idea, la testa di un femore. Ma possiamo anche decapitare uno. Cos'è che non ne sei in grado? Di cosa? Hai provato a decapitarlo? No, ho provato a convincerlo che lui l'avrebbe riportato in vita. No, cazzo, hai fatto uno. Grande. Cioè, ho fatto due, ci però almeno una carina. Un persuasion per ammazzarlo, al minimo devi dargli un svantaggio. Non importa, ho fatto comunque due. Mi piace però. Meno uno la fidati, ti riporterò in vita. No, cioè, in realtà il persuasion era per... Boh, cioè, tipo lui mi ha detto... Sì, però mi devi riportare in vita. Ok, e io ho detto sì. No, te no, no, ok. Tipo, più o meno è andata così. Fidati. Dai, facci trovare. Stai sereno. Per me il fumble, cioè il 2, è che Lorenzo in quel momento fa che cosa è? Tu non morirai. Do questa a Casimir, così può andare. La testa del gargoyle. Sì, ne abbiamo due, una da lui. L'altra la do Giulio. Che cosa... Allora, devi capire che c'è differenza tra i PG e i PNG. Ma chi se ne frega se Casimir trova modo di passare bene. Intanto passiamo noi. Casimir è fondamentale. È l'incantatore che non abbiamo mai avuto. Ce l'abbiamo. Quindi è fondamentale. Casimir ti ringrazia. Sì, ma l'altro dice... incantatore va lì e fa cose a caso, quindi no. Cioè, voglio Casimir che almeno mi fa una bella palla di fuoco, mi passa via 12 nemici. Ma adesso ce l'ha anche lui palla di fuoco. Lui va lì e fa... Devi convincerli. Ok, Eldritch Blast su un albero. Cioè... Va bene, Casimir prende la testa, ti ringrazia e si cammina. Oh. Attraversa il ponte, arriva al tavolino, mette la testa sul tavolo. Del gargoyle o della sua? Quella che gli hai dato. Ah, la sua. Si guarda intorno, continua a camminare. Attraversa il pontile, comincia a correre e va verso la foresta. E ci sono io in mezzo però. Sì. Ciao Casimir, sei passato? Ti saluta e corre via. Corre via? Porca di quella troia. Ma perché l'hai fatto andare via? Perché adesso ci porta a soluzione. Va bene. Vabbè, l'altra è a Giulio. E... Passa. Domanda scema. No, l'altra adesso che passa a casa per me. Non me l'avevi data prima. Non è data. Non ne vedi. Puoi provare a cacciare e a pescare. Vai, intanto vai e andate a ripescare Arci e fateci magari portare un aiuto di qualche tipo. Un volo delle teste. È una trollata. Passiamo in basso. Passa allora, vai. Una alla volta e quindi vai pure. Quindi mi dai la testa al gargoyle? Sì, te lo do. Tu lasciaci quella della Vistana però. Mi lascio quella della Vistana? Sì, ma quella non la usiamo. E vado lì e la poggio. Che ne rimane uno da solo nell'emergenza, la userà. E compare Strad e dice non era quello che pensavo. Lo so, pensavo. Sto andando a prenderla se mi lasci passare. Mi dispiace, è una testa per una testa, questa non la posso accettare. Ma chi è che arriva qui? Porca. Perché non la può accettare? Stupido Bardi Strada. Perché Strada ha detto a lui voglio quella dell'elfo. Perché lui ha detto scegli. No, no, è una testa per una testa, non ha detto che vuole quella. E quindi gli dà quella quindi? Testa lì, va bene, no? Non vale più. Perché? Non l'accetta. Perché non l'accetta? Decide lui cosa accettare. Cosa no. Forse devi convertire in una testa di elfa. Vabbè, io caccio pesci. Va bene. Eh sì, per forza. Cosa faccio? Tiro qualcosa? Mandatemi un corvo con scudo, ci servono delle teste, io faccio una strage. Non abbiamo più il corvo. Non abbiamo più. Mi dà guida, quindi più? Di 4. Un di 4 in più. Mandami il vivistrale di sangue. 12. 18. È un 18, ok. 18, survival, lanci la lancia e trovi una, infilzi una trot. Bravo. Dai, che passi. Non l'accetterò. Hai perso la lancia nel lago? No. Cioè, lanciata. Vabbè, no, dai, non sono così deficiente. La testa di una lancia. No. E niente, prendo la trota, prendo una delle mie accette, taglio la testa. E la butto nel lago. E la butto nel lago. Porto il corpo. No, che la testa, scusa, effettivamente. Magari, la testa di Vistana non la prende da te, ma magari la prende da qualcun altro. Ma io la terrestre. No, la testa della Vistana non l'abbiamo ancora. Non l'avete ancora portata? È la testa del gargoyle che ha rifiutato. Ah, del gargoyle. La seconda testa di gargoyle. Dico, te l'ha rifiutata? Sì, te la riporto se vuoi. Io porto la mia testa di pesce e me ne vado. Allora. È stato scorretto. Potevo peccartene altri. Aspetta, allora, no, non ormai arrivi a metà. Cazzo, scusa, non ci pensavo. Appoggi la testa, compare Strad. Era il mio terzo tentativo. Il secondo non l'hai neanche cagata. Testa del chiodo era geniale. Era geniale. Preferivo la moneta. Ma la testa del chiodo? Una vegna preda di un nobile cacciatore. Avrei giusto bisogno di qualcosa per tenerla sul falò mentre la cuocerò. Mi può passare la sua lancia? No. Non posso, questa mi è stata donata da... da un furto. mentre i miei compagni combattevano. È stato un segno che ha dato una svolta al nostro combattimento. E ha dato più importanza alle mie gesta. Devo tornare. Perché io non ho combattuto quella volta. Devo portarla con me quando ritornerò alla mia tribù per come simbolo delle mie gesta. Wow, quindi ha un grande valore per te. Oh, no, contrattino, contrattino. Metti la firma qui, qui e qui. Oh, sarebbe un peccato se mi ci segassi solo. Vabbè, però ho un punto ferita negativo, me lo toglieremo. Sì, ha un grande valore per me. Non è quello che serve per passare, secondo le vostre leggi. Oh, ma le faccio io. Che pezzo di merda, che cazzo. Resterò qui con i miei compagni, allora. Ok, no? Buona giornata. Cioè, non gli ha preso la testa di pesce? Gli avrebbe presa se avesse dato la lancia. Posso tenerla la testa di pesce? Sì. La do. Gliela lancio in faccia. Ormai la mia lancia, quello stronzo. Però andiamo... no, ormai vuol dire che non le prende. Io aspetto Casimir e lo sgozzo io. Ma Casimir è già andato. Sì, spero che sia andato a trovare una soluzione per noi. È scappato via. Ah, io vedo che Casimir se ne va, mi incazzo abbastanza. Casimir è a casa sua, raga. Se Casimir è passato, possiamo passare anche noi. Dai. Casimir gli ha dato una testa di gargoyle. Ma dai, gargoyle non accetta. Vabbè. Qua ci sono regole che stanno venendo. No, non l'accetta da me. Non vuole solo la testa. Che non stanno venendo controllati. No. Oppure non c'è mai stata questa regola del cazzo, ci sta perculando dall'inizio, cosa molto probabile. Però lui non si è neanche palesato, l'ha fatto. Non ha accettato. Boh, senti, sti cazzi, io vado avanti. Ok, arrivi a me. Io lo seguo. Alla fine sono io che devo fare ste cazzate. Quindi. No, noi l'abbiamo seguito. Infatti, chi ha detto io lo seguo? Il fratello. Beh, giustamente, andate pure. Io. Cazzo, io comincio a mangiare popcorn. Guarda, strano fa. Guarda, strano. Mi fermo al tavolo. Prendo tipo, che ne so, un cazzo di foglio di pergamena o qualcosa che ho. Io scrivo: ti devo la testa di Casimir, la vado a prendere. Esatto, la ficco lì e vado dritto. Tu lo segui a sfortuna? Se non mi dice niente, sì. Ok. Chi ti deve dire qualcosa? Beh, strano, immagino. Cosa ti dovrei dire? Non fare. Non so, voglio andare da solo, bla bla bla, non lo so. Sta sperando. Ma ti che dico, lo dicamelo. È a tuo rischio e pericolo seguirmi. Ok. Vabbè. Ok. Attraversate il camminamento. Ma tu leggi cosa c'è scritto sul foglio? Cioè, vedi che gli sta promettendo la testa di Casimir? No. Ok. Arrivate alla fine del camminamento. La nebbia si alza e vi avvolge. Voi dalla torre vedete il pontile venire ricoperto. E quindi non riuscite a vedere la riva. E dalla nebbia la voce vi dice... Una testa per una testa, ma qual è la testa che deve passare e quella che deve rimanere? Fratricidio. Io no, cioè... No, io ho detto. Però ha detto rimanere. Sì. No, hai detto rimanere. Sì, però. Siamo alla fine del pontile. Sì. Quindi in realtà abbastanza vicino alla terra. Sì. Iniziativa. Prego. Lo scontro definitivo. Tu sei. Cioè, sì. Marco, a meno che tu non ti faccia spingere in acqua, iniziativa. Sì. Minchia, vedi anche vince. Vabbè, la cosa più logica è che uno dei due torni indietro. No, è divertente. Giulio con un PNG. Ma in realtà l'avete attraversato il pontile. Per piacere, no. Ciao, Vini, ciao. Giulio con un champ. Iniziativa. Non è esattamente così. No, non è uno qualunque, è suo fratello. Non è uno qualunque, è suo fratello. Beh, non è mio fratello nel gioco. Però. Vai, ci stai, perché quasi uno sconosciuto per te. 19. Ma l'altro comincia a tirare altissimo. Anzi, sarebbe 20. Casimir, posso sgozzarti un attimo? No, va bene. No, lo butto in acqua, non è che lo uccido. Sì, aspetta, no, dipende la testa. No, ha detto che deve rimanere qua. La testa. In teoria ha detto quale passa e quale rimane. Giulio, raga, vuol dire che deve stare sul tavolo. Alta, dai. Secondo me. Vediamo, non ha detto, poi magari così. Provo a spingerlo. Può anche essere che vinca Marco, non diamo per scontato questa cosa, che sarebbe epico. No, oh, due. Beh, sicuramente deve combatterlo. Vabbè, aspetta, la sua iniziativa, senti, magari fa. Ho 17. Ah, non lo sentite. Comunque 17 e 20, cioè, cominciano. Sì, esatto. Prova di forza per spingerlo in acqua. Ok. Esiste il popcorn in questa ambientazione? Non lo so, non credo. Ok, puoi fare Non puoi, non è il tuo turno. Tu puoi solo resistere. Ah, ok. Puoi solo pregare. Prega Marco, prega. Lorda Fecciabosi. Tu dici per abbassargli i danni, perché lui ti sta spingendo, quindi è una prova contrapposta. Qualsiasi prova di abilità o attacco. Anche la prova. Quindi tu devi tirare il dado di ispirazione e sottrarlo a suo tiro. Lo farò adesso. È tanto tempo. Ciao, questo momento. Uno. Ok. 19. 19. Continua a tirare altissimo. No, ho fatto 11 in verità, con più 8. Ah, ok, così. Ok, allora tiro gli acrobati, poi faccio 16. Ok. Quindi poi è finito in acqua. Ok, ti ha spinto in acqua. Splash. E poi corre con uno strotto. Ciao! La nebbia rimane, non posso passare. Puoi provare. Uno deve rimanere qua, lo spingo in acqua e vado avanti. E vai avanti, ok. Man mano che corri avanti, la nebbia davanti a te si apre e dietro si chiude. Ti fa passare. Sono io. Ciao. È vero. Ciao. Cioè, è vero. Passi di fianco a... No, ma lui è invisibile. Sei ancora invisibile? È visibile. No, no, no, ok. Ciao, devo andare a uccidere Casimir. Io potrei andare lì, faccio così. La testa di Race è invisibile, però c'è. Cioè. Vado ad inseguire Casimir. Ok. E tu cosa fai? E quindi cosa succede, Marco? No, scusa, salva. Eh no, ma Marco cosa succede? Sì, adesso arrivo da Marco. Ah, ok. Hai detto è andato da quella parte, no? Ho capito. Ah, ma io non sto più capendo chi è con chi. Cioè, io a questo punto salgo sulla carrozza e faccio compagnia a Strad, non lo so. Ormai tanto. Proviamo a uccidere Strad. No! D'altronde, cioè, ci sono due possibilità. O Casimir è andato veramente a aiutarci, e quindi quando Giulio lo va a trovare, lui sta veramente andando ad aiutarci. Oppure è una testa di cazzo, e quindi quando lo trova lo ammazza. In entrambi i casi a me non frega niente. Testa di cazzo. Oh! È una testa. Cheo. È una testa. Cioè, nel migliore dei casi, Casimir ha la soluzione, io vi porto la soluzione. Nel peggiore, vi porto la testa di Casimir. E qualcuno di voi passa. Ma il cocchiere c'è ancora. Non c'è mai stato un cocchiere. Sì, c'era un cocchiere. Sì, è lì. Adesso non lo vedete perché c'è. Se decapitiamo i cavalli del cocchiere? Era quello che voleva fare. Ma non l'ha fatto. No, perché l'incantesimo non ha funzionato. Vabbè, ma io lo faccio fisicamente. Se magari non funziona neanche. Ricordi che succede? Accetta più. Sì, vabbè, intanto passiamo. Cioè, in realtà non piace. A me sarà allora, questo è un mega split the party. Qualcuno che sarà costretto a rimanere sull'isola. Marco. Può anche non essere lì. Cioè, non è... Tu sei. Ti stai allodarci, intanto. Tu sei in acqua e una mano ti si protende verso di te per aiutarti a risalire. Che genere di mano vedo? Ha le unghie quella affilate, che hai visto da di prima. Ha le unghie affilate, è la mano un di Strad. È la mano di Strad, Marco. Vabbè. Prendo la mano, sound. Ok, ti aiuta a ritornare a riva. No, il conte è dispiaciuto per l'accaduto. Purtroppo spesso abusiamo. È la parola fratello. No, beh, io l'ho fatto anche convinto che non sarebbe morto. E invece, adesso. Dimmi, Azaz, che cosa provi in questo momento? Tra l'altro io l'ho detto, tu mi segui a tuo rischio e pericolo. È vero. No, l'ho detto. Poteva uccidere. Mi piango di non avere i miei primi poteri nel contatto con il mio patrono, se no gliela farei vedere. Se finivi in acqua comunque, perché per l'iniziativa. Bravo, mi piaci, è questo lo spirito. Io potrei darti quel potere. Lo desideri? Anche non credo che tu sia all'altezza del mio padrone. Parole sbagliate. Purtroppo, come ti dicevo, il tuo padrone qui non arriva. Qui ci sono solo io. Ha pensato di fare una chiacchierata con lui? Ci sto lavorando, è un po' complicato. Purtroppo le comunicazioni. La segreteria telefonica sempre. Devi sapere che attraverso queste terre è molto difficile comunicare verso l'esterno. Ma ti prometto che, anzi, se tu verrai con me, farò in modo che vi possiate ricongiungere. Beh, immagino di non avere alternativa. Immagini bene. Cazzo, gli ho dato anche un altro servitore. Cioè, Strad dovrebbe baciarmi i gomiti. Baciarmi la testa. Se c'è uno che lavora per lui in questo mondo. Ok, se ti asciughi. Alla fine questo giochino siamo passati in due. Ma io lo vedo che mi sta parlando la strada. Tu lo senti? La nebbia, vedi delle sagome, vedi, però. Lo spillo si chiama capocchio. Senti che stanno parlando. Rimasti voi due. Abbiamo tu il pesce, io non... avete la testa di gargoyle, potete provare di nuovo. Il pesce non l'ha, non è che non l'ha accettato, né? Che da me volevano l'anima. Lui fa un gesto e dal nulla si materializza Bucefalo, il suo incubo, e ti dice: bel cavallo, visto? È una creatura meravigliosa, non è vero? Ricapitalo! Può portarti dovunque desideri, in questa terra, ovviamente. Ma hai dato il culo, mi sono perso il momento. Anche io. No, è sempre stato così. Sempre stato. Ma infatti la parte di strada è quella vincente, però... prendilo... C'era qualcuno che era infatuato di Rina... E torna a Kretsk e riporta i tuoi tre lacchè dove ci siamo visti. Ok. E tre popolani che voleva convertire. Sì. E poi consuma la tua vendetta. Cioè, noi vediamo tutto questo, tra l'altro. Cioè, non devo stare più attento sulla Giulia. Cioè. Consuma la tua vendetta. E assapora il gusto. Ma della giustizia. Comunque, perché non posso dargli potere, quindi mi sono inutile. No, non si riferisce ai tuoi sgherri. Che vuole che uccide tre popolani. No, si dice. No, lui vuole che uccida, che tu uccida. Giulio. Cioè, Giulio uccide Casimir, Marco uccide Giulio. Adesso il prossimo che passa deve uccidere Marco. Bello questo giochino, mi piace. L'ultimo che passa è vive. Sali. Beh, per Casimir avremo fuori sia Giulio che Marco. Sali sull'incubo. Sì. Ok. Lui comincia a galoppare e vedi che passa attraverso tipo quando Frodo si mette l'anello, no? Sei in questa dimensione parallela con tutte le cose che vedi normalmente, esatto. e lui comincia a correre velocissimo attraverso le cose e in 448 ti ritrovi, vabbè, dopo un po' ti ritroverai a Kretzky, però molto velocemente. Siamo rimasti a te. Sì, prova a passare tu col primo. Io sono con Nasi. Non ha rifiutato il pesce. Tu, se vuoi, puoi andare da. Ha detto che voleva la mia lancia. Ma non ha detto niente sul pesce. Arriva sfortuna. Da me? Sì. A Carezza, insomma. Arriva. Ciao! Ma sei sul cavallo di Strad? No, l'ho fatto scendere e poi tutto scomparso. Tutto a posto, però. Non c'è nulla di cui ti devi preoccupare. Simpatico. Sì, infatti sono qua. Raga, quando siete in giro, dove sono gli altri? La strana coppia. Il destino. Hanno avuto un intoppo. Strano. Strano. Cosa stai combinando? Stanno cercando Irino. Ah. Tu perché sei qua? Di questa cosa senza anche perché sei scritto non c'è Irina. Poteva essere, sì. Vabbè, stanno cercando Irina. Vabbè, torre vuota, non c'è Irina, ritorniamo, esatto, e poi cercano Irina. Vabbè, questo è come vai da Yefi e convincili che Kretzky è un posto sicuro. Yefi, Kretzky è sotto assedio dall'armata dei non morti, venite. Va bene, intanto che c'è questo dialogo, gli ultimi due torreggiani. Non ti punti ferite. Terroni. La parte sopra di una torre è considerata una testa. No, ne ha 103. Scusate, ma avete la testa di gargoyle e la testa di pesce? Sì. Non ci prende né il gargoyle né il vabbè, pesce. Io provo con avete... quella di gargoyle. Ah, quella di Vistana non l'avete più, perché ce l'ho io. Vabbè, Petru, tu non sei mai ancora provato a uscire. Io ho provato con quella di pesce, ma voleva la mia lancia. Quando andavi e la Poi me la sono ripresa. No, hai detto che te la lasciavi. Quando sono andato con la testa di gargoyle. Poi me la sono ripresa. Cioè, no, non hai detto che te la prendevi. Sì, ma da chi? Cioè, perché noi non lo siamo. L'ho data a lui e l'ho ripresa da lui. Ah, okay, cioè, sei tutto con lui, vabbè, ok, non lo so. Sì, me l'ho perso questa cosa. Sì, padrone. Ok. E con lei padrone. Molto bene. Allora, io provo con quella di gargoyle. Ok. Arrivi a metà, lui compare. Sei rotto il cazzo. La prende e la butta nel lago e scompare. Sì, giusto, ci sta. Gliel'hai dato tu, vabbè. Tu quello delle teste. Siete voi che avete detto no alla testa della Vistana, assolutamente non gliela diamo. Io non gliel'ho data. Cioè, da cosa mi prende tutto ciò? Mi aveva detto la mia paziente che gioca a D&D, guardaci ogni tanto, sono delle belle sessioni. Beh, questa è stata molto divertente. Beh dai, divertenti, sono divertenti. Vabbè, è che tu oggi sei stato un po' fuori gioco. No, dopo rimane indietro. Aspetta. Capito, al massimo mi lasci quella di Vistana, come allora, l'ultima. Allora, io quella di Vistana abbiamo appena detto. No, no, ce l'avevi data a noi prima di andare via. Io ho detto che me la riprendevo. Abbiamo appena detto. Dopo, quando il gargoyle non l'ha accettata la testa di gargoyle, io sono tornato è indietro. La mia ultima giocata. Sì, hai te la sei ripresa. Ah, fantastico. Aspetta, cioè, a meno che uno di voi non dica no, assolutamente non te l'abbia ridata. Però c'è sennò qualche altro animale che c'è giro. Visto che c'avevo io, tu non hai ancora fatto un bel coniglio. Tu non hai messo fuori scuso di un tremito della forza. Tu non hai ancora fatto nessun tentativo. No, abbiamo il pipistrellino potenzialmente. Se vuoi tagliare ma svanisce. Ah. È un famiglia. Tu puoi provare col pesce. Se ma accetta, tu lo devi accartocciare in modo che sia solo una testa. Hai capito? Puoi provare con. Ma tu rimani indietro. Sciò, ho capito. Ah, è vero, voi non avete visto tutta la scena mia. Però, di Marco. Cioè, meno ceci. Dai, andiamo. Se mi fate solo giocare, io scorreggio. Perché in realtà nessuno di noi ha dato una testa. Di fatto. In che senso? Io sì. Le due che sono andate davanti. Io e Marco non abbiamo dato di fatto una testa. Tu vabbè, l'hai promessa. Non sono stato. Cioè, non mi ha lasciato passare per quello. Mi ha lasciato passare quando ho spinto lui nel fiume. Non lo sai. No, è così. E se passiamo e basta, beh. A lui non vuole una testa, lui vuole che tu gli dimostri, gli dai qualcosa a cui tieni. Certo, questo era chiaro. Chi è più o meno fedele, chi è più o meno fedele a lui l'ha fatto passare. O è un PNG. Tu che cos'hai? Il tuo coso. Io no, Carrion. No, perché Casimir l'ha fatto passare con la testa di gargoyle. Di che cosa? Solo per darmi noia, solo per darmi noia, lo so che l'ha fatto solo per darmi noia. Sì, ma sarà grande così. Non si è neanche presentato. Magari stava dormendo. Di merda, sì. Ha fatto solo per darmi noia. Uguale alla sua. Lui è già fedele a Strada. È per quello che l'ha fatto passare. Lui è fedele a Strada, l'ha fatto passare. Tutti fedeli a Strada. Lui sta diventando fedele a Strada, l'ha fatto passare. È chiaro che il gioco è quello. A me ha chiesto la lancia perché è una cosa a cui tengo. Dagli sto. Vuole la tua fedeltà, non vuole un oggetto. Prova, prega un cazzo delle teste. Beh, però, come ti ho detto, l'hai già fatto in passato. Come ti ho detto, Casimir l'ha fatto passare con la testa di Gargoyle. Solo per darmi fastidio. Perché Casimir è un PNG. No, l'ha fatto per darmi fastidio. È chiaro. PNG. Casimir, non è stacco. Presente che ha un carry-on con i lupi che rincorrono i bambini. Stacco la testa di un bambino e la appoggio sul tavolo. La butta in acqua, va bene? Solo la testa, non gli dai anche il carry-on. Vuole una testa. Ok. Io non gli ho dato una testa. Ho spinto una persona in acqua. Gli hai dato una testa di bambola tempo fa. La testa del carione. Va bene, metti la testa, ricompare e ti dice un oggetto pregevole. Sei venuto per darmi la lancia. Hai visto cazzo di lancia? Tiro il carione addosso a Vezza e torno in me. Non sei dall'altra parte. Vabbè. E lo prende tipo. Vabbè, io nel contempo sono sulle tracce di. Non sai guidare la lancia. Cioè. Asce o quella o altrimenti trovi il passo. Dai la lancia a Vezza, così non ce l'hai. È vero. È Strad, non è un coglione. No, vabbè, io voglio provare a. Ha fatto passare Kevin solo per darmi fastidio. Cioè, io passerei conto. E basta. Rischi di morire. Sì. Preferisci morire che dargli la lancia. Che dargli fedeltà, sì. Ma non è fedeltà, gli dai la lancia. Anch'io ho un'idea. È come la sua testa di bambola. Gli dai una cosa a cui tieni e si crea un patto con lui. Non è fedeltà, esatto, è una sorta di. Che non voglio fare. Che non voglio fare. È un pedaggio, non è nulla di più. Non è di... No, non vuoi avere un legame. No, questo secondo me no, non è così. Sì, mi ha chiesto la cosa a cui tengo di più. Un oggetto fortissimo. Secondo me non è diverso da prima, cioè non è un legame, però perché tu non lo dai prima loro l'altro l'hanno dato con volontà, cioè hanno dato con volontà per dare fedeltà, qui è semplicemente per romperti i coglioni. Va bene, tu non ci sei ancora andato, prova con la testa di pesce. Ma io non la testa di pesce, no, la sarei fissata a te. È vero, lui così l'anima, non è mai andato a fare un quello che sta cercando di prima. Dopo rimane indietro. Sì, ma è andato solo a fare la trattativa. Non ha mai provato a passare. Cosa facciamo? Rimaniamo qui. Io una mia idea ce l'ho purtroppo. Però meglio, però più tempo lui perde qua. Io vado sulle tracce di soluzioni. Chi te lo impedisce? Se sta rifiutando quello che vuole. La testa di non mi invito a combattere con lui per uccidere Kevin. E la lancia, per quello mi sono messo a parlare con la testa di Gargoyle. Da Casimir l'ha accettata, da me no. È l'esempio più chiaro. Perché se l'avesse saltato, lui sarebbe arrivato magari in mezzo. Non sì, fosse no, riuscito a ucciderlo in fretta, sarebbe arrivato in mezzo al barco. Perché vuol dire che il discorso della testa non vale. Fa quello che vuole lui. Per quello che dico, è inutile cercare altre teste. Se con me è un no finché. Se Casimir accettava il suo destino, dovresti passare. Scelta. È quello che sto dicendo con lui. Passiamo è buona. Se ci vuole ammazzare, che ci ammazzi. Beh, buttalo in acqua. Di certo, non gli giuro fedeltà, non voglio fare patti con lui. Buttalo in acqua. Funziona. In acqua. No, io in ogni caso non gli do la lancia, qualunque cosa succeda. Perché vorrebbe dire, io sto cercando la redenzione da tempo e rinunciare a questo oggetto è come rinunciare al mio intento del mio viaggio. Ma infatti ci sta, quindi dovresti passare, basta. Io puoi farti un riposo lungo finché non ha qualcos'altro da fare. Che non ha senso. E non so, io comincio a spingere metaforicamente Vez per passare. Io voglio passare. Strano, non siamo ancora in grado di sconfiggere Strad, è una follia. Morirò nell'intento. Non mi sembra una cosa molto. Sono abituato. Cioè, puoi essere più utile più avanti per il recupero. Quando lo dico io andiamo, attacchiamo Strad, no, quando lo dice il barbaro. Rimanere qui non ha nessun senso. No, io dico di no. Marco, ringrazia, siamo passati tutti e due. Nel senso, anch'io voglio vendicarmi. Proponimi un'alternativa. Voglio vendicarmi. Allora, se lui vuole la lancia, o gli lasci la lancia, o trovi qualcosa di equivalente. Non ce l'ho. Vediamo che cos'hai. No, niente di così importante per me, niente. Fammi vedere. E te l'ho detto, un carino. Non lo so. Una, un cappio pesante. Comunque la mia, la mia intenzione è trovare Casimir, ucciderlo e portare la sua testa. È l'unica cosa di, che ha per me valore. Che effettivamente. E quello dovresti passare. E cosa sta dicendo? Io sono per passare. Se lui continua a tentennare, passerà le cose fuori. Cioè, puoi provare, però secondo me resta in più per ripassare. Cioè, non ti faceva come passare. Cioè, poteva passare così. Se non sta fermato qualcosa di più. Non lo so, tipo un giuramento. Cioè, tu vuoi passare con me? Io decido di passare adesso. Tu vuoi passare con me? O... Ma io, nel senso, se ti chiede a sto punto, se ti chiede la lancia, forse l'unica è quella. Però sì, io no, io passo senza dargli la lancia. Ah, tanto si passa uno per uno. Non è... Allora io passo. Vai da solo? Sì. Ok, arrivi a metà. Ah, sei qui per darmi finalmente la lancia. Bentornato, Garrosh. Lo ignoro e continuo a camminare. Oh, non sei uno psion, però mi spiace. Bella mossa. Peccato che okay. Non lui ti guarda negli occhi e dice: Non proprio. Attento a non dimenticarti qualcosa. E fammi un tiro salvezza CD17 sulla saggezza. Saggezza? Qui adesso gliela dà. 4. Ok, ti puoi dare la lancia? Lui, in quanto tuo migliore amico, ti aveva gentilmente chiesto di dargli la lancia. Come col libro. Esatto, come col libro. E... pone la sua mano e ti sorride. Vabbè, non ho alternative. Sì. Allora, in realtà, cazzo, se è l'oggetto a cui tieni di più, io non glielo dai comunque, anche se è il mio migliore amico sotto charm. Perché tu sì, sei un cioè dipende come funziona questa regola. No, se il tiro implica che sono obbligato a darglielo, sì, però questo cioè, neanche se me lo chiedesse Vez glielo darei. È un amico di cui ti fidi, che va, che tu vuoi proteggere e hidden. Insomma, no, non hai motivo di dubitare della sua. Cioè, magari lui te la può mettere anche. Fammi vedere la lancia che hai, dammi un attimo. E tu Dice proprio: tu prendi le sue richieste nel modo più favorevole possibile. Però posso chiedergli perché la vuole. Solo te l'ha detto favore. Per prendere il pesce sul falò. Sì, è vero, te l'avevo detto all'inizio. Sembra sensato. Ci vuole uno spiedo di fatto per arrostire il pesce. Sto cazzo strada, io passo per il ponte. Passami la lancia, devo restare il pesce. Tenga, buon uomo. Prende la lancia e ti lascia passare. Sei dall'altra parte del pontile. Con Salla. Con Salla. Bravo. Ciao. Visto? Era facile. Dov'è rimasto l'altro tizio? Sono io. Si muove? Cosa? Credevo che i paladini fossero più coraggiosi. Lo credevo anch'io. Vai, vado anch'io. Cosa passa a mezzo con la lancia e il pesce? Eccomi, ragazzi. Arrivi a metà, ricompare Strahd. Allora, Vardi, Strahd, sei rimasto solo tu. È così. Allora, dimmi, hai scoperto quali dei tuoi amici ti tradirà? Quali non ti tradirà? Esatto, la vista è lunga. Non ha importanza. Forse Rictaglio. Ma non ci girerei. Non ci girerei, però forse, perché anche Casimir a questo punto, da come se l'è data a gambe. E che cos'ha importanza invece? Digli l'oggetto più inutile che hai. Questa penna. No, ma Casimir palesemente, visto che hai fatto un tiro pessimo, ha detto, voi non sarete mai in grado di arrivare là, quindi non siete... Può essere. O forse andate a cercare aiuto. Magari sta andando in città a chiamare lui. Sì, vedi, cioè, vedi Strahd in fondo. Vedi Strahd in fondo. Signor Conte. Vedi, signor Conte. Ragazzi. Vabbè, sono già amici ormai. In fondo, noi vogliamo. Noi vogliamo la stessa cosa. Che cosa? Che questo terribile incubo finisca. Può darsi. Però. per cui abbia fiducia in me. Troveremo una soluzione prima o poi. Per il momento le darò quello per cui è venuto qui, ovvero in questo suo atto di bullismo. Ma è perché lei sa che questo mi dà molto molto fastidio, cioè mi dà molto dolore più che altro. Ma questo non farà altro che aumentare il mio senso di vendetta e la mia determinazione per il futuro. E tiro fuori il mio simbolo sacro, dove c'è una testa del sole. Vabbè, siamo tutti nella stessa lato adesso, cioè. Tutti sulla stessa barca. No, non è un patto, però gli è... Il... oddio, gli dai il tuo simbolo sacro, cazzo. Vabbè, ne farò uno nuovo. È il simbolo della tua divinità. Ho capito, questo. Dimmi come fa. Ti fai caso questo crocifisso? Dimmi come fa. C'è una testa di sole sul... Una testa di sole. Allora, c'è un sole con una faccia e dice che interessante, dice, oh, ciao. Ma non perde i poteri, è tipo quello dei teletà. No, scusate, no, è l'ora dei teletubbies, è l'ora dei teletubbies, tinky winky, cioè è solo l'umiliazione più che altro. Secondo me li perde perché ha tradito il dio, quello sì. No, ma non è un tradimento al dio, è solo l'umiliazione. Solo il paladino del giuramento. Cosa vuol dire? Cioè, no, della vendetta. Esatto. Se ha uno. È molto diverso. Comunque. Cioè, se avessi ascoltato strano quello che ho detto, forse avresti capito. È un oggetto interessante. Devi sapere che. Mi sto costruendo un piccolo reliquiario dove tenere questi manufatti di questo tipo. E, mi servirebbe una è il sole dei teletubbies. Dice... mi servirebbe proprio un oggetto molto buono per tagliare il legno. Puoi aiutarmi? Ah, quindi ci hai sfottuto così. Ci vuole la tua ascia. Cioè, ho fatto tutta sta scenetta e poi dopo. Vuole il tuo oggetto magico. Lo prendere, lo vorrei mettere dentro qualcosa, una tecla. Allora me lo riprendo però quello. No, me l'hai regalato. No, io quello è il pedaggio. Se, sì, non, sì, se non basta, lo me lo riprendo. No, beh. Serve questo. Avevi parlato di una testa. Quella è una testa. Se non ti va bene la testa, me la ridai. Allora ti do l'altra cosa. Però mi devi ridare. E poi se mi faccio la mia tecla, non avrei niente da metterci dentro. Capito, ma non sei di parola, però. Cioè, sei un po' ridicolo, con tutto il rispetto. Ma questo è semplicemente un piacere che chiedo a un buon amico. Non siamo amici. Prendo l'ascia e gliela lancio nel lago. Prendila pure. E passo. Ok. E lui evapora, non nella nebbia. Passo una postilla. Che tu paragoni la mia lancia a quella accetta. Sono armi magiche. Tu paragoni la mia a quella città. Ha dato anche il suo simbolo sacro. È vero. Gli ha dato il cazzo di simbolo sacro. È vero, hai ragione. Ma è stato un po' imbarazzante, Strad. Veramente. Cioè, se voleva quella merda lì, poteva chiedermela subito. Vabbè. Con tutto il rispetto. È stato anche contento del simbolo. È un muletto da periferia. Vabbè, dai. Che non se lo fa con me che non oggetti molto magici. Triste, dai. Va bene. Anch'io. Perché di fare i più duri? Ciò... Tanto è l'unico oggetto magico che avevo. Cioè, nel senso, c'è sfortuna che devi davanti a me. C'hai sfortuna lì davanti a me che ti ha detto è tutto a posto. Ah, hai detto così? Sì, giusto. Stanno cercando Irina dopo che ti ha regalato un messaggio. Non abbiamo trovato. Torre vuota, Irina non c'è, ritorniamo. Cosa hai detto a povero Patrick? Che è lì che aspetta vostre notizie. Sì, che hanno avuto dei contrattempi, stanno ancora cercando Irina. Quindi li aspettiamo qui? Va come vuoi. Se no mi hanno parlato di un posto dove resuscitare la gente. Tra. C'era Casimir che parlava. Cioè, no, non puoi. Sfortuna, ma oggettivamente non puoi, non insospetti. Davanti a una roba del genere. Stai bene, ti sei posseduto. Non più del solito. Riusciamo a tornare a Cresto o no? Sono un warlock. Lo scopriremo la prossima puntata. Perché sì, adesso la situazione è Casi che ci sono Patk e Sfortuna. Sì, che se va avanti così mi sa che rimaniamo dei due soli. Vabbè, adesso ci raggrupperemo. Se andiamo a Cresc, perché adesso non so, Giulio non ci interessa dove è andato. Il primo che si è allontanato è stato Casimir, no? Sì, sì, subito seguito da Giulio. Lo vuole ammazzare. Hai capito? Non so se ci interessa seguire Casimir. Giulio. Dietro Casimir c'è Atlas. Comunque, no, allora che senso aveva che dice su una testa? Cioè? Merda, Vez. Cazza palesemente voleva toglierti oggetti magici. No, ma ci sta, ma mi sta bene, però non dire una testa, dire un'altra cagata. Era per non dirti voglio un oggetto a cui ti. Stava a dire, devi darmi un pedaggio, punto. Quello che ha detto. No, ha detto una no, perché alle persone che in passato gli hanno già dato una cosa a cui tenevano, ho preso una cagata qua. È stato molto triste, secondo me. Mi dispiace. Se voleva quella, lo sa che mi ha chiesto. Vabbè, subito dopo c'è sfortuna. Cioè, è stato imbarazzante. No, già Krask. Sì, ma era in ordine quello che è uscito dopo di me. Sì, dopo di me è uscito Garrosh. Lo dico in ordine di cammino. Garrosh, quello che voleva. Garrosh, che è insieme a... E l'ultimo Varys, però loro sono lì alla riva insieme a... Noi dobbiamo decidere cosa fare. A Rhys. Insieme a Rhys, che è il primo che è andato... Noi decidiamo cosa fare, direi la prossima volta. Va bene, dai, vedremo la prossima. Tra l'altro io magari adesso uccido Casimir, mettiamo che ce la fa. Torno indietro. Rigo la testa. Rigo la testa e voi non siete più. Io andrei a Krask. Per forza. Ma Giulio in che direzione è andato? Io c'era la nebbia, però. Io ho seguito Casimir. Vabbè, se dipende se Race si palesa o meno. Se si palesa, forse sono diciamo che non ho. Di sicuro non ho badato a camminare piano a nascondere le tracce. Sono andato dritto per dritto. Allora io faccio il survival. Vabbè, ma se lo chiedi a Race te lo dice. Race ha indicato a me la direzione. Vabbè, se siamo lì davanti, siamo io, Garrosh e Race. Gli dico, ma Casimir e Sfortuna e... Ha parlato con Strahd e poi è sparito. Non ma in teoria l'abbiamo visto che ha cavalcato il cubo. No, cioè, non è voi non avete visto niente. Non ho sentito loro che parlavano. Ma cosa è successo ad Atanas invece? Atanas è passato, ha detto inseguo Casimir, gli ho detto vai, è di là e basta. Ma niente, dovremmo metterci a inseguire. Ed è la direzione di Krask o da un'altra parte quella che hanno preso Casimir e Giulio? È la direzione di Krask. Però che la direzione bisogna prendere per forza quella, non c'era molte altre. Comunque sia, noi abbiamo detto che andavamo a Krask, quindi lui lo sa che stiamo andando a Krask. Quindi evitare a Krask per non morire. Vabbè, io direi di partire per Krask, però se posso intanto guardo se le tracce di Giulio portano anche quelle a Krask o no, per ma capire sì, se è un altro posto verso Krask. Sì, però nel frattempo posso controllare le tracce. Possiamo controllare e le tracce. E se intanto possiamo mandare il mio pipistrello a Krask per mandare un altro messaggio a Pat. Sì. E tipo, stiamo ancora arrivando. Stiamo cercando di lì. No. To be continue. Continua ad aspettare. No, stiamo cercando di tornare a Krask. C'è un po' di traffico. Un po' di tangenziale. E glielo mando. Incidente sulla. Molto bene. Bene. Praticamente sono venuto qua a scorreggiare. Esatto, avete visto una puntata di scorreggiarci. Per fortuna non l'avete odorata. In realtà ringrazio che non c'eri. Però alla fine l'hai beccata tutte tu. Sì, che la corrente forse, è bella. Forse per magia tu sentivi un odore e le puzze. Comunque dicevo si sono fatto uno ha la puzza sotto il naso. All'inizio quando hai mosso la sedia. Sentite anche la vicina. Sismografo. Va bene, avete visto il 38esimo episodio della maledizione di Katta e vi diamo appuntamento alle prossime sessioni con Tycoons and Dragons. Avevi un messaggio di qualche tipo? Non scorreggiate, tenetele forte. Non scorreggiate, tenetele forte. Tenetela, almeno provateci. La prossima sessione è quella con Lex Arcane. Sì. Ah, prossima Alex. In teoria le alterniamo. A casa di Vez c'è un bagno in realtà. In sì. Non abita in Lima, se volete. Non hai il bagno. Bagno come dice. Tutti voi possiamo fare uno e uno. Sono froci. In teoria le alterniamo. No. Per me va bene. Così avete entrambi più tempo anche per preparare eventualmente quello che c'era da preparare. Va bene. Ma posso chiederti? Il secondo episodio di Lex Arcana lo vedrete sul podcast tra poco. Mentre questo. Ma siamo della campagna. La campagna finisce quando con finisce. Voi che salite al decimo. Voi siete ah, beh, allora scusami, sì, cioè noi finisce la campagna e saliamo al decimo? Sì. Ah, e a cosa serve? Cosa? Ad arrivare al decimo livello. Cioè, sì. Che senso c'ha? Facci salire la prima e il raggiungimento del decimo livello. Sì. Facci salire prima. Beh, io avrei una noi ce lo godiamo. Beh, tanto dobbiamo prima arrivare al nono. Esatto. Cioè, di cosa stiamo parlando? No, tra l'altro, cioè, tu mi dici. Vabbè, se finisse, se fosse finita l'undicesimo, cosa sarebbe cambiato? No, nel senso, finisce al decimo, nel senso, siamo al decimo e finisce. Dice di fare le due sessioni al decimo. Tecnicamente, esatto. Se finisci al decimo, vuol dire che hai compiuto il nono e stai giocando il decimo livello. No, non dire cagate. Ma è, cioè, ma se avessi detto finisci al nono, cosa sarebbe cambiato? No, ma cosa vuol dire? Ma non ha senso. È un modo che noi, cioè, dire, finiamo al nono. Se una campagna finisce, è inutile che io ti dica sali di livello. Ma infatti, vabbè, finisce al nono. Vabbè, cioè, perché dopo potresti, cioè, farne un'altra con gli stessi personaggi. Perché dopo può però, e ci penserai in quella dopo. Alla fine guadagni comunque un livello quando finisci la campagna. Di solito in tutte le campagne è successo. Posso parlare di quando sei per il master anche in diretta? Volevo dire, alla luce di tutti i nostri passati scontri, sì, quanto senso ha nerfarci? Ha senso per quello contro cui dovete combattere. Sì, ma abbiamo perso sempre, però abbiamo solo succhiato. No, avete conquistato una città. Due. Due, sì, è vero. Una e mezzo. Due. No, però tutto. Conta due. No, non è che l'abbiamo persa. Non siete l'abbiamo mai donata. Stati in difficoltà, siete delle macchine di morte inarrestabili. Vabbè, siamo stati. Avete scopato un drago in un turno, porca troia. Io ancora mi ricordo un combattimento con delle streghe. Perché quello. Beh, lì siamo stati fessi noi che a livello 2 siamo andati contro un GS5. È stato Spider-Man che andava a girare. Quello è il classico incontro per dire ai giocatori: se fate delle stronzate le pagate male. Però quello è il classico incontro per dire: beh, tra tutti i problemi di questa terra e il vino non lo volete risolvere per primo? Ma questi dei pazzi furiosi. È tutto collegato, cioè, se c'è riscaldamento climatico, una guerra nucleare, tu risolvi il vino. E poi quando noi poi abbiamo preso il vino, non serviva l'aperta vino. Anzi, ci offre un bicchiere di vino, Strada, che cosa carina. Tra l'altro ce l'ho io il suo buonissimo vino adesso. È una bottiglia di champagne. Va bene, va bene, va bene, va bene, lo stesso... Lasciamoci alle spalle la maledizione di Katta per andare a letto. E buona serata, buonanotte. Seguiteci sul podcast anche Spotify. C'è anche su Spotify, insomma. E lo aggiorneremo piano piano. Intanto il lunedì prossimo, Next Arcana. Next Arcana. Con la prima puntata in cui si giocherà di fatto. Sì, completiamo i personaggi e giochiamo. Completamente. Madonna, regga la presa di Roma. E inizi. Sacco di Roma. Sacco di Roma. Va bene, va bene, va bene. Ciao a tutti. Dobbiamo dare il nome alla nostra legione. Approfondimento. Come finire? Beh, te li dico adesso mentre torniamo a casa. Figlio di un membro di un culo dentro le razze. Se li sei già. Come finire una campagna appena iniziata? Provare a mettere al sacco Roma. Noi ci conosciamo allora, ci va o no? O non te ne frega niente? Abbiamo fatto tutti l'addestramento. Marco, ti saluta mamma. No, sì, dico già da prima. Ciao mamma. Perché siamo gli unici di Roma. Non è qui però, sì, credo. So che siamo gli unici di Roma. No, però a casa... Roma è 1,5 milioni di abitanti, lo so. Vabbè, però... ma tu che cos'hai punto... prima? In realtà in diretta. Cioè... uno studioso, fratello di un funzionario. Questo era lo speciale per il podcast. Molto bene, bravi podcast.